passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. L'Italia è il paese che ha regalato al mondo il 50% dei beni artistici tutelati dall'UNESCO. Più di 100.000 chiese e monumenti, 40.000 dimore storiche, 3.500 musei, 2.500 siti archeologici e più di 1.000 teatri. Lo sapevi? Approfitta delle tue vacanze per scoprire l'Italia che ancora non conosci. Questa nostra magnifica Italia da scoprire e da amare. Ho visto delle intercettazioni, io sono qui proprio perché l'Italia non sia quello che è adesso. Ho dato una definizione di quelle che si danno al telefono, la notte inoltrata, ed è davvero così un paese in cui le cose che si dicono al telefono non sono ricoperte dal segreto, in cui uno alza il telefono e non è sicuro della inviolabilità di ciò che dice al telefono e si vede poi pubblicata sul telefono, sui giornali, con la scrittura delle cose che si sono dette magari in un momento di rilassatezza o con un sorriso o per paradosso. Eccoci qui, caro Parenzo. Eccoci, direttorissimo Cruciani, come sta? Bene, 800 24 00 24. Siamo partiti dallo spot, lo hai sentito? Sì, lo spot com'era? Che Berlusconi fece per il ministro Brambilla per il turismo, e siamo andati alla frase che viene riportata ormai da due giorni da tutti i giornali, cioè dire Berlusconi che al telefono con Walter Lavitola, personaggio molto discusso, origini socialiste, eccetera eccetera, dice: me ne vado via da questo paese di merda, proprio così. Ed è la spiegazione, come dire, originale da parte di Berlusconi ieri sera uscendo dal vertice europeo. È veramente un paese di merda quello che consente che vengano pubblicate cose di questo tipo. Ieri, uscendo sempre dal solito vertice europeo, Berlusconi ha detto anche che la sinistra è una sinistra criminale. Senti. Vediamo. Quello che fa questa opposizione, quello che fanno i giornali della sinistra, è criminale nei confronti dell'Italia. Ed è la sinistra, dice Berlusconi, che aizza i mercati. Poi la sua versione sulla questione della famiglia Tarantini, dei soldi versati, 500.000 euro, eccetera, eccetera, quello che avete letto sui giornali. Secondo i PM c'era un tentativo di estorsione da parte di Berlusconi, da parte di Tarantini e Lavitola nei confronti di Berlusconi. Berlusconi che voleva mettere a tacere alcune cose che riguardano i suoi rapporti con alcune donne, comunque i suoi rapporti con Tarantini. Secondo Berlusconi questi soldi sono stati versati perché la famiglia Tarantini era nella povertà più nera, però c'è qualche particolare che sentirete nella voce di Berlusconi. Ho letto poche agenzie adesso su quella cosa, confermo che è pura fantasia quello ipotizzato da questi PM, pura fantasia. Io ho dato una mano a una famiglia con figli che era abituata a vivere nell'agio, che si è trovata nella povertà più nera, e l'ho fatto nel confronto di questa famiglia come lo faccio nel confronto di una miriade di persone che ricorrono a me. Ora soffermatevi su questa cosa: una famiglia, quella Tarantini, che è abituata a vivere nell'agio. Dunque Berlusconi contribuisce al risollevamento delle sorti della famiglia Tarantini perché era abituata a vivere nell'agio e a un certo punto si è trovata nella povertà più nera. È il Berlusconi di sempre, no? Berlusconi di sempre. Sì, ma qui bisogna distinguere, sì, un attimo. Cioè, cosa vuoi caso, ma io voglio stupire, fare arrabbiare gli ascoltatori di sinistra. Fai arrabbiare, sì. Sul caso di Lavitola, sì, io non mi stupisco che Berlusconi, in un momento anche di stanchezza, chissà quanti leader anche di sinistra parlando al telefono hanno detto: questo è un paese del cazzo, ingovernabile. Quanti politici lo hanno detto? Secondo me nel privato lo dicono anche molti. Noi un sacco di volte, no? Ma anche diciamo, noi, ma andiamo in qualche ufficio che non funziona e diciamo: guarda che paese di merda. Ma non funziona, ma anche per le aziende per le quali lavoriamo alle volte, no? Diciamo: sì, mamma mia, guarda qui che non funziona. Ed è assurdo, dillo, che queste conversazioni escano, dillo. Ma certo, è assurdo, perché è assolutamente irrelevante ai fini del processo, ma l'abbiamo detto anche dopodiché ieri, il problema qual è? Il problema qual è? Secondo me è il fatto che Parlante, con un signore come La Vitola, che è un editore del giornale, viene da ridere, l'editore dell'Avanti, il direttore dell'Avanti, un signore che è ancora latitante, ritorni in Italia, signor La Vitola, venga. Ma è latitante, diciamo, c'è un mandato di cattura. Ma dove tu sai dov'è? È all'estero, non so dove, in Brasile, ha interessi commerciali. Stanno cercando tutti. Torni qui però un attimo, 5 minuti, no? Torni qui. Faccia mica come Cesare Battisti, il tuo amico Cesare Battisti. No, credo di no, credo che non faccia come Cesare Battisti. Torna presto, signor La Vitola. Torni La Vitola. È imbarazzante quella lì. Cioè, abbiamo anche il telefonino di La Vitola. Sì, sarebbe meraviglioso. È imbarazzante il fatto che Berlusconi parli al telefono con Tarantini e La Vitola. Diciamola tutta, questa è la realtà dei fatti. Però Berlusconi non è cambiato da quando faceva l'imprenditore televisivo, eccetera, eccetera. Cioè, parla tranquillamente con queste persone, perché nella sua natura parla con chiunque, anche persone mezze pregiudicate, che hanno problemi con la giustizia, che hanno un sacco di casini. Poi questa cosa della generosità è assurda, cioè non è che Tarantino è un povero sulla strada, eccetera, cioè diciamo la verità, insomma, non è... Sì, anche perché sennò dovrebbe, voglio dire, tutti quelli che fanno la fila alla Caritas dovrebbe prenderli uno a uno e dargli un po' di soldi uno a uno. L'interpretazione del signor Sallusti, che è uguale... A me sai che è molto simpatico, lo Sallusti. Sai che è uguale a quella di Berlusconi, l'interpretazione di Sallusti di questa frase? L'Italia è un paese di merda è esattamente uguale a quella di Berlusconi. L'Italia è un paese di merda se le intercettazioni escono sui giornali. Io in parte condivido, comunque, diciamo. Sì, è un paese di M, è il paese dove la conversazione, che non ha nessun rilievo penale, perché uno al telefono può dare i giudizi sul paese che meglio ritiene, non è reato dire l'Italia è un paese di M, finiscono in un'inchiesta penale e poi con una stratagemma molto furbo finiscono sui giornali. Hai sentito che l'ha detto? Ma dov'è il reato? Dov'è il reato? Ma qui mi dispiace per Sallusti, non vorrei fargli un danno, però ha ragione Sallusti. Paese di merda sono i PM. Senti ancora Sallusti, che poi, naturalmente esonda. È un paese di M, il paese dove dei PM commettono una illegalità, perché è vietato per legge acquisire e quindi poi rendere noto delle intercettazioni di parlamentari senza l'autorizzazione della Camera, e Berlusconi fino a prova contraria è un parlamentare. È un paese di M dove la magistratura resta impunita di fronte a tante illegalità, per cui è un paese di M dove c'è una magistratura di M, e per cui non credo che Berlusconi abbia detto il falso dicendo quella cosa. Va bene, un'ultima cosa prima di presentarti un ospite, caro Parenzo. Ed è la comica della Procura di Napoli, però bisogna dirlo, che fa finta che sia un'inchiesta a proteggere Berlusconi, in cui Berlusconi è vittima, ma in realtà è come oggi ho letto da qualche parte, una ennesima operazione di grande sputtanamento, diciamo la verità, in cui Berlusconi appare vittima ma nello stesso tempo se lo vogliono inchiappettare, cioè, diciamo la verità, diciamola tutta, caro signor Lepore, questa volta Berlusconi è vittima, dice. Senti, che buffonata tremenda, senti. Questa indagine, come sto ripetendo da più tempo, sta a significare, a smentire una voce che spesso veniva propalata, che era quella che tutte le toghe ce l'avevano con il Presidente del Consiglio. Stavolta invece il Presidente del Consiglio è vittima. Non diciamo stupidaggini. È quasi dire una volta tanto Berlusconi è vittima, però è chiaro che serve per costruire un quadro, no? Un contesto in cui il premier è ricattabile. Dai, qui non c'è. Tra l'altro Berlusconi dice: io non ho ricevuto nessun tipo di ricatto, eccetera. È vero che si indaga anche se il ricattato colui che viene storto. Comunque, d'ufficio? Si fanno indagini d'ufficio. Però non è un caso. Non parliamo della tecnicalità. Sì, non parliamo di questo. Santo Versace, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, carissimo? Sto bene, voi vi vedo sempre in forma e pimpanti. Dove si trova, signor Versace, nelle sue ferie? Io adesso praticamente oggi finisco, perché fino al 20 agosto sono stato a Roma. Sì. E ho preso poi 10 giorni e oggi finisco. Dove si trova esattamente? Va, in Sardegna, in uno dei posti più belli d'Italia. È santo Versace. Ma non è che stiamo parlando del signor Tarantini che dice a Berlusconi è finito in mezzo a una strada in povertà più nera. È santo Versace, c'è poco da fare. In uno dei posti più belli e viva la ricchezza. Forte Village è un posto splendido. Viva la ricchezza, no. Diciamo dica viva la ricchezza. Dica viva la ricchezza, Versace. Ma viva la ricchezza di tutti, la ricchezza è prima di tutto un fatto interiore. Ah beh sì, però... Beh, interiore, ho capito, interiore. Però diciamo la verità, Versace, se non c'è il quattrino è difficile. Però diciamo la verità, Versace. Sono fortunato. Esatto, bravo. Il denaro aiuta a essere liberi, diciamo la verità. Ma io ho messo sempre fra i principi, per essere uomini liberi bisogna innanzitutto avere cultura, perché se uno non conosce i propri diritti non puoi essere un uomo. Non c'è dubbio, poi però poi di avere autonomia economica appunto. E poi di avere coraggio, perché se uno è vigliacco non sarà mai libero, né sia che ha la cultura sia che ha i soldi, ma se è un vigliacco non l'è. Quindi cultura, quindi conoscenza dei fatti, sì. E autonomia economica, molta. E al terzo posto grinta, passione, sì. Voglia essere un combattente, diciamo, perché che i vigliacchi non saranno mai uomini liberi. Non c'è dubbio, però insomma se uno non ha quella cosa che è il danè è difficile essere libero, almeno secondo me. Comunque su questo aspetto volevo dire che il nostro paese è un paese ricchissimo, ben gestito e ben amministrato, potremmo evitare che ci sia qualcuno. Senta, allora non è un paese di merda come dice Berlusconi. È il paese più, in quel caso Berlusconi probabilmente si riferiva al fatto che dei magistrati l'hanno costretto a pagare a una persona che noi sappiamo, crack del Banco Ambrosiano e tante altre cose. E chi è come crack del Banco Ambrosiano? Quindi a una persona 500 milioni di euro, cioè praticamente il doppio e il triplo di quello che vale l'azienda. No, scusi, secondo lei si riferisce a De Benedetti? Ma sicuramente a quell'operazione si riferisce, a quel fatto, perché quel fatto l'ha molto ferito. Io ci ho parlato con lui un paio di volte di queste cose e lui su questo fatto veramente era ferito in maniera feroce. Dunque ha ragione questo in questo caso? Ha ragione in questo caso qui, pensando a questo caso specifico, Berlusconi è un santo, perché l'hanno massacrato una cosa dove avere qui era un'operazione fatta economicamente. Però c'è una sentenza, Versace, c'è una sentenza, deve pagare 560 milioni dei Benedetti. Li ha pagati 460 rotti, quasi 500 milioni di euro. Sì. Ebbene, la sentenza è sbagliata, anche i magistrati sbagliano, solo che loro non pagano mai. Loro possono sbagliare quanto vogliono, possono fare mandare in galera. Dunque, lei dice, da questo punto di vista, quando dice paese di merda ha ragione, perché io paese di merda dell'Italia non lo dirò mai, perché d'accordo. È il paese più bello del mondo, orgoglioso di essere italiano, è il paese più bello del mondo. In quel senso poteva dire che in questo paese c'è anche gente di M. E chi sarebbe secondo lei gente di M? Ma in questo caso chi praticamente ha fatto quelle sentenze? Probabilmente si riferiva a quello. Non si riferiva all'ingegnere, no? Quei magistrati. Quello l'ingegnere, non do giudizi. Come non dà giudizi? Giudizi, dico, la storia parla. Dunque, come lo definisce? Di una definizione dell'ingegnere. L'ingegnere è una persona in gambissima, come tanti, un capitano d'industria, un capitano d'azienda, CDB. Che sa fare i fatti suoi, che si sa difendere bene, sa uscire bene anche dai processi. E quella è una qualità, insomma. È una qualità, sì, certo. È una qualità, è una virtù. Sì, come sicuramente. Una virtù. Ma dimmi una definizione così lapidaria di CDB, una alla Santo Versace, insomma, non con una cosa di... No, CDB io l'ho conosciuto, adesso sono molti anni che non lo vedo, era molto amico anche di Gianni, una persona in gamba, super in gamba, che si sa togliere anche dagli impicci. Si sa qualcuno togliere. Lo ha definito liberté, égalité e jet privé. Vabbè, quello che c'entra. Questo libertà e carità e gesti privé non riguarda solo lui, riguarda tanti. Riguarda tanti. Comunque, secondo lei, Berlusconi, quando dice quella frase lì, sbaglia, però si riferisce... Sì, perché il paese è il più bel paese del mondo, cioè, chiaramente abbiamo tanti problemi, io lo vedo anche, voglio dire... Ma è una vergogna che sono... È una vergogna? Un ministro non può revocare un ministro. Ma è una vergogna che sono uscite quelle intercettazioni, conversazioni quello private? Sì, quello io sono sempre difeso, io mi sono battuto perché non passasse una legge sulle intercettazioni che danneggiasse il lavoro della magistratura e mi batterò sempre. Però è chiaro che ci deve essere un responsabile di tutto quello che viene registrato. Cioè se esce qualcuno deve essere responsabile. Qui in Italia nessuno è responsabile. Questo non c'è dubbio. E su questo, perché se c'è un responsabile deve pagare, un magistrato viene licenziato in tronco e la smette di fare il magistrato, perché però non c'è un cancelliere, qualcuno si deve sapere. Comunque lei non vuole andare via, lei non si sente andare via perché l'Italia è un paese di M, come Italia, dice Berlusconi. Io sono entrato in politica da imprenditore per cambiarlo sto paese, per dare una mano a fare di questo paese quello il paese più bello del mondo. Lo è per certi aspetti, lo deve essere a 360 gradi. Ci sono le condizioni per farlo. La politica, l'arena politica, caro Parenzo, rischia di essere affollata tra poco, forse Montezemolo, anzi diamolo per certo, Montezemolo. Poi anche l'ex banchiere Profumo, hai letto? Anche no? Profumo? Anche sì, Profumo, sì. Almeno si propone Profumo, signor Profumo, sentiamolo. Signor Profumo. Shunt of a bank. Con tutta la possibile umiltà di quello che ha ancora un sacco da imparare, diciamo, io la provocazione di Bruno l'accetto, insomma, nel senso che se c'è bisogno di fare qualcosa, di cercare di dare un contributo positivo a far funzionare le cose, io, diciamo, alla tenera età di 54 anni mi metto in gioco. Mi metto in gioco, anche Profumo. Senta Versace, lei che è uno, vertical, diciamo così, e che non è che a mezze misure, questo balletto indegno sulla manovra economica, le pensioni, il riscatto del militare, l'età che non si alza, mi dica qualcosa su Tremonti. Sinceramente la manovra dal primo momento, io ho preso posizione in maniera molto chiara, dicendo che non l'avrei votata questa maniera manovra, poi con Silvio ho parlato esattamente al telefono più di 10 minuti su questa manovra e Berlusconi mi ha detto: senta, lo sai perfettamente, non è la mia manovra, io non voglio ste robe e via dicendo. Questo all'inizio, da subito dopo che sto prendendo il parlamento. Non è la mia manovra, ha detto Berlusconi. Sì, perché cioè non sono le cose che mi piacciono, perché sì, ma qui c'è un problema serio. Che è quello di Tremonti. Nelle scusi, come siamo riusciti a abolire le province per un fatto molto semplice, perché c'è la Lega. Ma chi è il presidente del Consiglio? Susi, chi è il presidente del Consiglio? Pronto? Sì, sì. Sì, Versace, prontissimo. Ma chi è il presidente del Consiglio? Io lo capisco, Berlusconi, che c'è una mia manovra. Ma il presidente del Consiglio in Italia non riesce, non può neanche revocare un ministro. Sì, ma non è questo il punto, è che evidentemente Berlusconi non è. Sono d'accordo, un attimo, se mi fate finire, che io l'ho detto diverso, se fossi stato Presidente del Consiglio io dal primo giorno avrei fatto correre tutti, 7 giorni su 7, 365 giorni, non facevo andare nessuno in vacanza se non prima facciamo le riforme strutturali. Sì, ho capito, ma le pensioni, che bisogna andare a aumentare l'età pensionabile. Lo so, Versace, che bisogna fare? Nessuno può andare. Capito, la Lega non vuole né aumentare l'età pensionabile né abolire le province. Adesso facciamo sta manovra. Scusi un attimo, Bossi, dove si trova? Io Bossi, ci un attimo solo, sono al Ministero a Monza con Maria Teresa d'Austria, stiamo parlando di federalismo fiscale, di riforme, del popolo delle partite IVA. Ho parlato prima con i medici a Firenze per l'annessione del Granducato di Toscana a Padania. Ma di che sta parlando, scusi? I medici, la famiglia dei medici, Federico II che è d'accordo, i Caravesi, la grande famiglia di Padova pure, solo quello stronzo di Gregorio, Gregorio mette i bastoni tra le ruote, ora faremo il tumulto dei ciompi, abbiamo la possibilità con Maria Teresa d'Austria di costruire la grande Padania libera e indipendente. Maria Teresa d'Austria, ma di che sta parlando? Stai zitto, non capisci, sei lo stronzo di Crociani, sempre venuto al nord lì a rubare i posti di lavoro, hai rubato i posti, tornatene a Roma, a Milano devono esserci le gente del nord, c'è un ragazzo ad esempio che si chiama Lezzo, di 21 anni, molto bravo, dovrebbe condurre lui la radio, via. Ma come, addirittura, chi sarebbe questo ragazzo? Ho già parlato con, si chiama Lezzo Boss, che adesso è regione Lombardia, deve andare, stai legnato, dov'è la guardia padana, Calderone? Chiama la guardia padana, vai a Crociani, via Montesanto, portalo via. Monte Rosa, veramente. Monterò, non capisci niente, ha cambiato il nome delle vie, non capisci niente. Si chiama Via Padania Libera, quella lì. Via Padania Libera, mi scusi. Vabbè, adesso ho da fare con i Celti. Ok, ma scusi. Devo parlare con i Celti. C'ho Maria Teresa d'Austria. Va bene. C'ho Maria Teresa d'Austria. Va bene. Versace, scusi, si sei finito. Vabbè, ho capito. Padania libera, sempre la solita cosa. Scusi, Versace, ma Berlusconi che dice roba che neanche Visco è socialismo reale per le misure sull'evasione fiscale. Ma insomma, chi le fa queste misure? Lui o Tremonti? Le subisce? No, sull'evasione fiscale io sono molto severo e dico, noi parliamo sempre di. Dunque, Berlusconi americani. Sbaglia da questo punto di vista? No, sull'evasione fiscale è una cosa che io tre punti ho fatto presente a tutti quando sono arrivato in Parlamento. Primo, una lotta alla corruzione feroce, perché in Italia la corruzione, va bene, 60 miliardi l'anno vanno ai corrotti. Ma la pubblicazione per me tutto deve essere trasparente, se vogliamo questo paese tutto deve essere trasparente, ma essere trasparente cosa spende il Quirinale e come lo spende, cosa spende Palazzo Chigi, i dati spende, bancari nella dichiarazione li metterebbe, tutto. Guardi, in America dunque non è vero. Un certo Al Capone andato in galera non per 200 omicidi e passa, ma per l'evasione fiscale. Dunque, fosse per lei, in galera si deve andare non per 3 milioni di euro di evasione, anche per meno. Ma Ma è chiaro che bisogna provare che sia verificato bene. Vabbè, quello è chiaro, non è che in galera subito. Sì. Ma secondo me non metterei un limite basso, vorrei vedere quello che è. Comunque 3 milioni. Galera anche per un'evasione più. L'evasione fiscale. Quello che viene fatto, noi dobbiamo metterci in testa che tutto quello che viene fatto ai danni dello Stato, sì. Assumere una persona benissimo. Che non c'è ruolo, sono d'accordo con lei. 70 parenti alla Regione Calabria, sì. E poi perché sei consigliere o assessore quando sta finendo la legislatura, che non c'è motivo, ma devo andare in galera senza processo in questo ma momento. Allora perché avete protestato contro Equitalia quando Equitalia ha fatto partire quelle, ha messo le ganasce a chi non pagava le tasse? Avete criminalizzato Visco, avete criminalizzato Equitalia, Visco euro una macchina a 15.000, ci vuole equilibrio in queste cose, sì. Fate bene, però secondo me bisogna essere severi, chi tocca, chi okay. non paga le tasse, sì. chi tocca il bene pubblico, chi spende o spende galera, il denaro pubblico, in galera. Deve essere uscire fuori dalla politica, noi non possiamo aspettare sì. la magistratura, perché quando i politici dicono il garantismo, calma, il garantismo è una cosa sacra, okay, però non è che si può mandare la gente in galera però, su nulla, Versace, è chiaro che no, bisogna provare le cose. Un attimo, se però uno compra il 15% da Marcellino Gago di azioni che non servono e spende 460 miliardi di nostre, deve andare fuori di corsa. Io gli faccio mandato di cattura, è andato fuori, già, questo poi deve essere no, tutto fuori provato di corsa, no, ma non si può poi tergiversare, vedremo si difenderà una roba o un'altra. Vabbè, ho capito, ma perché le garanzie la politica ci deve uscire, poi si faccia il processo, ma dalla politica deve andare via di corsa e il danno al pubblico la fa. Senta, dunque Visco avete sbagliato a criminalizzarlo? Io ho sempre parlato bene di Visco. Se vuoi guardare le interviste appena sono entrato in Parlamento, io ho sempre detto che Visco la sinistra non l'ha saputo usare, che Visco era un motivo per far crescere i voti, non per farli perdere. Beh, questo è interessante. Questa è una visione originale. Versace, no, Visco... no, l'ho sempre detto anche nelle interviste nel 2008 e nel 2009, poi non l'ho più citato perché basta. Visco una brava persona. Cioè, Visco ha sbagliato, è stato sbagliato criminalizzare Visco. Con Visco... Assolutamente, perché la lotta all'evasione fiscale è fondamentale, lo Stato va rispettato in tutti i suoi dettagli, deve essere... Non si tocca il denaro pubblico, non si sperpera. Qui gente che assume centinaia di persone che non c'è funzione, le consulenze, quanto costano i vari palazzi? Io dunque Berlusconi sbaglia, Visco va rivalutato, questa è la realtà. Ah, in effetti ora lo stiamo rivalutando. No, ma lo stiamo, sì, non lo stiamo, importante. Io personalmente l'ho sempre rispettato, stimato e ne ho sempre parlato bene, l'ho sempre difeso. Dal primo giorno, se andate a ricercare interviste o battute o d'altro, ho sempre detto che ho apprezzato Visco. Senta, ma Montezemolo in politica come lo vede? Ma Montezemolo in politica, se vuole scendere che scenda, il mercato il è libero, ogni cittadino ha diritto di far politica. Ma come lo vede però, lei? Io come lo vedo? Lo voterebbe lei, lo voterebbe o no? Ma io voto Versace. Ma ho capito, sì, ho capito. Non è che si cambia. Vediamo cosa mettono gli schieramenti, con chi va e con che cosa. Io prima di votare Montezemolo voterei tanto Versace. Vabbè, ho capito, Versace. Quello però tanto Versace potrebbe andare con Montezemolo? Ma bisogna vedere il programma, io a questo punto voglio vedere i programmi e le persone che ma lei potrebbe uscire dal PDL o no, Versace? Ma io vorrei un centrodestra compatto e forte, coeso. D'accordo, che ma lei questo tutti lo vuole. Anch'io vorrei il sole tutti i giorni, eccetera, però... Ragazzi, ma se non lavoriamo per questo siamo fritti, No, ho capito, però questo PDL lei potrebbe uscire o no? Ma io in questo momento dal PDL voglio aiutare Alfano a cambiarlo, perché Angelino Alfano ha molta fiducia, c'è tanta bellissima gente dentro il PDL, ce n'è di sbagliata ma ce n'è anche tanta giusta, c'è il mio amico Giuliano Cazzola, c'è tanta gente. Ma fosse per lei Tremonti, fosse per lei, darebbe un consiglio a Berlusconi, cacci Tremonti o no? Ma se io fossi primo ministro, onestamente, lo caccerebbe. Viste le situazioni e tutto il resto, avrei cambiato ministro. L'avrebbe cacciato. L'avrebbe già cacciato. Sì, vabbè. L'avrei cambiato. Non è che cambia molto, cioè. E chi avrebbe messo al suo posto? Ma Formigoni, come lo vede? Al posto, al posto suo? Sì, al posto di Profumo, se è disponibile, Mario Monti, Profumo. Corrado Passeri è troppo impegnato con Banca Intesa. Abbiamo tante persone di grande qualità. Mario Monti al posto di Tremonti. Vabbè. Mario Monti per me andrebbe, va bene per tanti ruoli. T'ha dimostrato nei 10 anni che è stato. Grazie Versace. Buona Sardegna. Comunque, ricordiamoci un fatto. Abbiamo il giornale radio, torniamo dopo, giornale radio. Va bene. Eccoci qui alle 19:15, caro Parenzo. siamo bene. Qui 800 24 00 24, come mi manca la mano che batte sulla scrivania di Marione Borghezio. Quando fa la Lega. Cari amici. Cari amici della Zanzara. L'ho visto un po' abbattuto recentemente. Era un po' giù Borghezio. Beh sì, per forza, questi 3 mesi di sospensione. Lo so. Sentiamo. Lo hanno forse un po'. Certo, lo hanno abbacchiato, non c'è dubbio. D'altra parte, la sparata grossa, però bisogna dirla. Sì, la sparata grossa, non c'è dubbio. La sospensione. Che sono qui in macchina col tassista? Sì. Che sigla è lei? Ferrara 70, che stando come un leone in mezzo a un traffic jam, come dicono gli inglesi. Ferrara 70, dove stai andando? Scusa, non per farmi gli affari tuoi. Sto andando a Ferrara 70. A recuperare la mia valigia all'albergo. Sì. E poi sto cercando di catapultarmi, ma non voglio dirlo troppo a voce alta, nel torpedone delle 20:15. No, il torpedone mitico. Però devo non parlare, è quello, quindi molto piano. Non è quello delle 18:30, è quello delle 20:15. Sì, l'ho preso apposta, perché sennò rischiavo l'insurrezione armata sopra. Beh, magari c'erano persone diverse da quelle incontrate. Speriamo. L'ultima volta. Però non credo di riuscire a prenderlo, perché sono in mezzo al traffico. Anzi, fai un appello a chi qui è in macchina. Appello ai signori che sono... Allora, ti passo il tassista, perché gli ho detto che gli do un incentivo se riesci. Aspetta un attimo, il signor Cruciani. Sì, pronto? Buonasera, signor tassista. Ce la facciamo? 8:10 stiamo lottando come leoni. Mi raccomando, si faccia dare. Allora, la cosa ufficiale è questa: accordo ufficiale tra la Zanzara e il tassista che sta portando Parenzo a prendere il torpedone per Siena. Se lei poi lo deve pretendere, perché è tutto registrato qui, abbiamo registrato tutto. Allora, se lei riesce ad arrivare in tempo, chieda a Parenzo 10 euro in più. Bene, le deve pretendere, eh? È tutto registrato, tutto promesso. Se lei arriva, bene, in tempo, 10 euro in più a Parenzo. Glielo ripasso come regalo. Proprio okay. un accordo. Grazie. No, glielo ripasso. Facciamo. Pronto? Pronti. Allora, ho fatto un accordo a tuo danno con il tassista. Che se arriviamo in tempo, se arrivi in tempo a prendere il torpedone, gli devi dare 10 euro in più. Accordo a tuo danno. Sì, 10 euro in più rispetto. Ma che roba è? Ho capito, ma volevi arrivare in tempo? È un danno erariale gravissimo. Danno erariale. Ti ho procurato un danno se arrivi in tempo. Denunzio per danno erariale. Aspetta che qui. Vabbè, intanto mandiamo il TG3. Ma cosa fa questo qui? Ma vada via, si sposti, maleducato. I titoli del TG3. Del TG3 di Bianca Bellinger. I dubbi di Bruxelles e Confindustria, incerte le entrate dalla lotta all'evasione, Tremonti nessun condono, borsa in rosso, sale lo spread. Economisti e industriali a Cernobbio, l'Italia si ha più seria, la confusione genera diffidenza, serve una vera e più decisa politica. Lotta contro il tempo al Senato per esaminare gli emendamenti del governo, intanto Berlusconi attacca l'opposizione, criminale e anti-italiana. Bersani, il premier mette a rischio il paese, deve dimettersi, pronti ad un governo di responsabilità nazionale. Di Pietro, ospite al TG3. Nella manovra 170 milioni di maggiori tasse sulle cooperative, la difesa del cardinale Bertone, una punizione ingiusta. La procura di legge indaga sui colleghi di Bari, titolari dell'inchiesta su Tarantini. I PM di Napoli convocano la segretaria del premier. Il sito di Assange, Wikileaks, pubblica online oltre 250.000 cablogrammi diplomatici americani, rivelazioni anche sull'Italia. Vado, questa volta ho deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu di non poterle più? L'Italia è il paese che ha regalato al mondo il 50% dei beni artistici tutelati dall'UNESCO. Più di 100.000 chiese e monumenti, 40.000 dimore storiche, 3.500 musei, 2.500 siti archeologici e più di 1.000 teatri. Lo sapevi? Approfitta delle tue vacanze per scoprire l'Italia che ancora non conosci. Questa nostra magnifica Italia da scoprire e da amare. Non sta andando via dall'Italia, come dice di voler fare Berlusconi in una conversazione con il signor Lavitola, conversazione, lo ripetiamo, che è assurdo vedere pubblicata su un giornale, ma che poi inevitabilmente, di cui inevitabilmente poi si parla, non c'è niente da fare, cioè questa frase... Ma non c'è nulla di cui, in verità non c'è nulla di cui parlare, del contenuto non c'è nulla di cui parlare, anzi è una vergogna, diciamo la verità, che poi venga pubblicata una conversazione. La domanda che uno si fa è perché Berlusca, che ha tante robe da fare, governa un paese, parla con sto signor La Vittola, che con tutto il rispetto non mi pare né cliché né tantomeno i grandi capi di stato di governo europei. Trichet certamente è La Vittola, non è Trichet. Andate a leggervi, inutile che oggi vi facciamo un riassunto, quello che c'è scritto sui giornali, ma trovate tantissime cose su questo signor La Vittola, e poi rispondete alla... Che è successo? Ma no, giustamente, ma andando a 90 all'ora in una strada e c'è uno che ci ha superato, un arrogante. Vabbè, succede per strada di essere superati, di essere sorpassati. Suoniamo un po' a questi qui, suoniamo, guarda questo qui. La famiglia Tarantini nella povertà più nera, lo voglio riascoltare. La famiglia Tarantini nella povertà più nera. Ho letto poche agenzie adesso su quella cosa, confermo che è pura fantasia quello ipotizzato da questi PM. Pura fantasia. Io ho dato una mano a una famiglia con figli che era abituata a vivere nell'agio, che si è trovata nella povertà più nera. E l'ho fatto nel confronto di questa famiglia, come lo faccio nel confronto di una miriade di persone che ricorrono a me. È furibondo Berlusconi per la multa Mediaset. Sentiamolo, è generoso, io sono generoso, invece la multa Mediaset, eccetera. Quando vedo che ci sono motivi veri per dare una mano a qualcuno, lo faccio, visto che me lo posso permettere, nonostante in questo paese, che ho definito in un certo modo, ci siano delle cose come questa che sono insopportabili, ci siano delle cose che sono vere e proprie rapine nei confronti di un individuo, come i 600 milioni di euro che ho dovuto versare cash alla tessera numero uno del Partito Democratico. Beh, è quello che ci ha raccontato prima Versace. In realtà questa frase, paese di M, è riferita al dolore, com'è che l'ha definita l'altro giorno Monte Confalonieri? Mi vengono conati di V. Di vomito, voleva dire, insomma. Sì. Intanto, a proposito di Benedetti, devo raccontare una cosa, perché c'è uno scontro molto forte, caro Parenzo, uno scontro molto forte, uno scontro all'ultimo sangue, si potrebbe definire, ma la cosa è seria, non sto scherzando, tra il signor Stracquadanio, Giorgio Stracquadanio, ieri nostro ospite, anche un po' malmostoso, devo dire la verità. Ma no, non digli così, perché sennò quello telefono se la prende con un leone. Sì, se la prende, perché lotta come un leone, è vero. Signora, perché è bravo, molto preparato, ma quando tu lo attacchi lotta come un leone. Lotta come un leone. Signor Giorgio Stracquadanio e De Benedetti, perché proprio in conclusione della nostra intervista il signor Stracquadanio, provocato dal sottoscritto su De Benedetti, quello che aveva detto all'uscita dal direttivo di Confindustria a Milano, ha pronunciato le seguenti parole. Dico che il punto di vista di De Benedetti non è il punto di vista di un imprenditore italiano, e quindi queste sue critiche a me non dicono nulla. Secondo me De Benedetti non ha il polso della situazione della società italiana, non ce l'ha, perché lui ha delocalizzato i suoi interessi imprenditoriali in varie attività, tante non gli sono riuscite in Italia e non è un caso, lo Stato lo ha sin troppo assistito in numerose cose, e anche quando ha avuto iniziative di successo, penso a Omnitel, se non avesse venuto gli inglesi di Vodafone non sarebbe andato da nessuna parte. Qui non c'è, ma dopo lo recuperiamo, c'è il passaggio in cui Stracquadanio dice in maniera molto chiara: non paga le tasse in Italia, ma le paga in Svizzera, dunque non è titolato a parlare dell'Italia. C'è una risposta da parte del signor De Benedetti fatta per venire qui alla radio, caro Parenzo. Assolutamente. Con riferimento alla dichiarazione rilasciata dall'onorevole Stracquadanio ieri alla Zanzara su Radio 24, precisiamo che l'ingegner Carlo De Benedetti è sempre stato residente fiscalmente in Italia e ha sempre pagato le tasse in Italia. L'ingegner De Benedetti pertanto ha dato mandato ai propri legali di querelare l'onorevole Stracquadanio. Sì. Scontro. Ma allora hai visto? Cioè questa qui è una scontro, trasmissione. Scontro, ma non dare giudizi sulla trasmissione. Scontro Stracquadanio De Benedetti con queste frasi pronunciate dal signor Stracquadanio. No, veramente forte. Rileggi cosa ha detto De Benedetti? L'ingegner De Benedetti, pertanto, ha dato mandato ai propri legali di querelare l'onorevole Stracquadanio con riferimento alla dichiarazione rilasciata dell'onorevole Stracquadanio ieri alla Zanzara su Radio 24. Hai capito? Perché De Benedetti sostiene naturalmente il direttore centrale delle relazioni esterne del signor De Benedetti del Gruppo Espresso, è sempre stato residente fiscalmente in Italia e ha sempre pagato le tasse in Italia. Su questo nulla questio, perché se lo dice lui non fosse vero sarebbe clamoroso. Hai capito, mi sembra evidente. Va bene, c'è molto altro da farvi ascoltare, compresa la frase incriminata di Stracquadanio. Ho capito l'equivoco. Che è successo? Perché una volta l'ingegnere De Benedetti aveva detto: vi potrei trasferire in Svizzera, perché durante la guerra gli svizzeri hanno salvato molti ebrei, è un paese molto civile, potrei trasferirmi, però non si è mai trasferito. No, si è sempre favoleggiato su questa cosa, non so se sia un equivoco o no. Comunque ieri alla Zanzara ha detto, è chiaramente questo: è residente in Svizzera, paga le tasse in Svizzera, non può essere, non è titolato a parlare dell'Italia. Questo ha detto. Ha smentito perché è sempre stato residente in Italia. Fine. E ha querelato il signor Stracquadanio. Ecco. Nico da Udine, buonasera, 800 24 00 24. Ah, buonasera a voi, grazie per avermi richiamato. Intanto io volevo dire, cioè, quello che ha detto Berlusconi lo prendo con uno sfogo, come una qualsiasi persona normale, diciamo. Cioè, Berlusconi dice di notte si dicono tante cose. Sì, ma dico, lo prendo come uno sfogo, come una persona normale, tutti quanti quando abbiamo qualcosa magari c'è come uno sfogo, ma io lo traduco in un altro modo. Può essere, non dico paese DM, ma può essere un paese, cioè, che è rappresentato dei politici più o meno DM, nel senso che vede, cioè, io dico due cose: vede Bossi in canottiera che tira un cartone lì che non si sa neanche che significato ha, o Calderoli, diciamo, con le braghe corte lì e non si capisce, non sono politici seri, perché i politici seri si chiudono in una stanza, decidono e poi vengono fuori, questa è la decisione, va o non va, nel senso, questa è la decisione, perché questo momento che è per le decisioni, è tutto lì, insomma. Non può essere che si chiudono dentro lì nella villa di Arcore, dietro magari hanno fatto una grigliata, tutto quanto, poi vengono fuori. No, no, adesso, no, ma adesso non la prende così, le dico in modo, perché è una grigliata. Ma lei è stupito ed è costernato per questi continui cambi di opinione, la manovra cambiata mille volte. E Nico, vuol dire, l'abbracciamo, non può, l'abbracciamo molto, così, molto forte, no, Parenzo? Cioè sì, la... Non si può andare avanti così, perché cosa vuole che decisioni, cioè, capisce? Cioè, comunque, è quello che diciamo ieri, sulla questione delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale, anche l'Unione Europea oggi ha preso posizione. Cioè, le entrate sono incerte, tu non puoi fare una manovra in cui, che si basa sulla lotta all'evasione fiscale, che dovrebbe essere pertanto peraltro una costante. Cioè, dovrebbe essere una costante, puoi prevedere dei flussi maggiori se stringi un po' le viti, però non sono entrate certe, su questo non c'è dubbio. Allora, Borghezio, dichiarazione di Borghezio di qualche istante fa, noi siamo sempre in collegamento, siamo in fibrillazione, sono in esilio. Dì la verità, quando ti arriva la mail di Borghezio un po' vai in fibrillazione? Sì, mi emoziono un po'. Godi come un pazzo. Sono in esilio a Nizza, deluso e amareggiato per il trattamento subito. Vabbè. È la conferma di quello che dicevamo. Alberto da Genova, buonasera. Buonasera a voi tutti quanti. Dica, signor Alberto. Niente, ringrazio dello spazio. Brevissimamente, intanto io, nonostante tutte le nefandezze che possono essere attribuite al Presidente del Consiglio, non riesco a non dissociarmi da questo idem sentire che ho con lui. Io sono un impiegato, non è che sia chissà quale. E qual è l'idem sentire su che cosa? No, un po' su tutto quello che viene detto. Al cioè di là sul del paese di M? Sì, ma non perché lo sia, ma perché si è trattato, come avete detto anche prima, di uno sfogo. Francamente io al telefono, quando converso con persone note, mi lascio spesso andare ad affermazioni che non farei mai pubblicamente. Dopodiché la cosa grave è se fa un'esternazione nell'ambito di un'occasione magari pubblica o comunque con personaggi rappresentanti di altri paesi o di istituzioni. Beh, non è che non ne abbia fatte, diciamo, di esternazioni. Con il signor Obama, per esempio. Certo. Con la regina, meraviglioso. Sì, però io quello che veramente non riesco a capire è che questo accanimento che c'è comunque nello sputtanamento che è in corso, secondo me alla fine potrà nuocere sicuramente al Presidente del Consiglio, ma nuoce di più alla magistratura. Quando, se è vero, come dicono, che la fiducia della cittadinanza e dei cittadini nei confronti dell'istituzione magistratura viene scalfita, questa fiducia non viene scalfita solo perché qualche politico la delegittima, ma perché si delegittima da sola, con dei comportamenti che sono, agli occhi di un cittadino qualunque, quale posso essere io, francamente incomprensibile. Ho capito, grazie Alberto. Abbiamo la borsa 800 24 00 24. Eccoci qua di nuovo in diretta. caro David, a che punto sei? Sì. Che punto sei? Ho dovuto fare una sosta, ritirare le... i soliti vestiti. È del corpo diplomatico lei? Sì, sì. Ah, salve, buonasera. Grazie. No, era solo così l'informazione, grazie. Corpo Pronto? Diplomatico? Che c'entra il corpo diplomatico? No, c'era una macchina del corpo diplomatico, stavo per entrare su perché loro hanno le corsie preferenziali. Sì. Ottimo. Hai fatto il solito passaggio? Un piccolo abuso. Passaggio a ritirare i vestiti al solito... Sì, è stato via degli avignonesi. Solita cosa, va bene. Da questi cinesi che lavorano 24 ore su 24. Sempre aperti i cinesi, sempre. Meno male. Cristian ci chiama da Brindisi. Buonasera, signor Cristian. Buonasera a voi, Parenzo e Cruciani. Sì, ma con l'incentivo ci arrivi, non ti preoccupare. Gli ho detto che devi dargli 10 euro in più. Ma poi daglieli, voglio assistere al pagamento di 10 euro in più. Cristian da Brindisi, buonasera. Buonasera, Parenzo e Cruciani. Poi te li do io, non ti preoccupare. Cristian. Mi sentite? Sì, la sentiamo, sì, signor Cristian. Volevo dirvi solo un fatto giusto accaduto oggi, anche se non sono d'accordo con Mr. B su quasi nulla, ma... Mi appresto oggi ad acquistare un prodotto su internet, su eBay, dalla Cina, arriva perché in Italia non c'è. Sì. Ok, seguo tutta la descrizione del prodotto, arrivo in fondo, mi trovo la dicitura no shipment to Africa, India e Italy. Mm. Giro Parenzo che ho detto, però, ma allora siamo veramente un paese di M. Evidentemente ci saranno degli accordi, non lo so perché non spediscono le cose in Italia. Perché non le spediscono, scusi? Cruciani, sono andato a vedere poi dopo dove... Tabella dei pacchi smarriti, siamo al pari di Africa. Ah, per quello. E quindi praticamente non spediscono. Io dico, alla fine siamo un buon paese, siamo capaci di cose meravigliose, soprattutto quando nei momenti peggiori, però certe volte abbiamo dei servizi che sono al pari di paesi molto ben meno sviluppati, quindi e dico, non sono per il paese di M perché hanno scippato qualcuno anche dopo una sentenza 500 milioni, però certe volte non ce la mettiamo proprio ad uscire dalla nostra condizione o migliorare certi servizi. E veramente trovarmi al pari di Africa e India senza nulla togliere, cioè veramente Cruciani, non posso acquistare quel prodotto perché sono in Italia, è assurdo. Cioè, Cristian, grazie. Sentiamo la frase di Stracquadagno, da cui poi l'annuncio di querela da parte del signor De Benedetti. 4 secondi sono. Ma lui paga le tasse in Svizzera, non c'è tanto da discutere con lui. Non c'è tanto da discutere con lui perché paga le tasse in Svizzera, dunque non è titolato a parlare di mali italiani, di cosa funziona o non funziona. Ieri aveva attaccato il governo perché aveva detto che non c'è una guida. Il che mi pare insomma una cosa abbastanza, anche se la dice De Benedetti, non mi pare una cosa particolarmente originale, perché è sotto gli occhi di tutti. Comunque non è che lo dico io, lo dicono tutti, osservatori di centrosinistra, di centrodestra, di vattene a pesca, di qualsiasi cosa. Mirko ci chiama dalla città di Rimini, e quindi che? Mirko? Sì, sono qua. Dica. Buonasera, dunque. La leadership di Berlusconi, questo è il mio argomento. Non mi meraviglio che non si sia ancora aperto un dibattito serio, ma serio, sì, all'interno della destra sulla leadership di Berlusconi. Beh, veramente si è aperto, cioè, non è che non si è aperto, ma si è aperto sotto la sua direzione. Beh, ho capito, ma quello è Presidente del Consiglio, che vuole fare? Io ho capito che Presidente Come si del deve aprire il dibattito? Non può tenersi il partito, il potere, le aziende, si può tenere tutto lui, è una. E vabbè, le volevo dare un consiglio per la trasmissione. Sì. Trovo meravigliosa la sigletta che fa davanti al TG di Bianca Berlinguer. Sì. Se ne potrebbe far fare una da Parenzo, magari, che presenti il TG di Minzolini, sarebbe meravigliosa. Grazie. Ma come, non sono mica... ormai. Vorrebbe la voce di Parenzo che annuncia il TG1 di Minzolini. Ma che sono, un jukebox? No, capito? Una sorta di un contrasto tra Parenzo che annuncia il TG1 di Minzolini e la Began che annuncia il TG3 fantastico, della Berlinguer. Francesco ci chiama da Caserta, buonasera. La Reggia. Sì, che non è la Reggia di Monza, Dove no. È Bossi, Dove è Bossi, è lì. Sì, sempre là, Ho preso la residenza lì ormai. Dica, Francesco. Buonasera, salve. La telefonata dell'ascoltatore da Brindisi capita a fagiolo, la mia è una provocazione. Si parla ultimamente di tutti questi imprenditori che devono scendere in politica, da Profumo, Montezemolo. Sì. Io faccio l'agente di commercio. Sono due persone comunque che fanno mestieri diversi, hanno fatto e fanno mestieri diversi, Montezemolo e Profumo, non è la stessa cosa, insomma. Però tutti questi papi bianchi che arrivano che devono risolvere i problemi. Io, la mia è una provocazione, faccio l'agente di commercio, perché non l'agente di commercio, suo padre faceva l'agente di commercio, giusto? siamo dei mediatori, allora... conosciamo i problemi delle aziende, conosciamo i problemi della strada, del mercato. E allora? Se siamo attenti, no, per assurdo, perché non un agente di commercio? È uno scherzo, è una provocazione, perché dentro sono imbevuto come l'amico da Pisa, no, che chiama. Sì, sì. È una cosa assurda, veramente, perché in effetti i problemi sono questi. Noi abbiamo una nazione dove abbiamo l'energia elettrica che costa più cara di tutta l'Europa, il gas uguale, la benzina è uguale, le tasse sono le più alte, sia sul lavoro e sia praticamente sulla benzina costa più o meno lo stesso comunque. Vabbè, più o meno siamo lì, tra le più care sicuramente. A sud c'è una criminalità organizzata che gestisce il territorio. Cioè lei dice i problemi ormai si conoscono, è inutile ripeterli. Però guardi, poi l'ultimo problema, che è anche quello principale, abbiamo dei politici che sono i peggiori. Allora poi, conclusione? Con le sue provocazioni. Sì. No, era uno scherzo per dire effettivamente, ma come li vogliamo risolvere questi problemi? E che ne so, Francesco? Non lo so, dico la gente di commercio combattare. Ma no, agenti di commercio non possono. Gli agenti di commercio è meglio che facciano il loro mestiere. Grazie a Francesco. Un attimo solo, il giornale mi comunica e mi manda un messaggio un nostro amico di un blog, why non leggerlo? Magari lo pronuncio male, ma comunque, insomma, nel 2008 cosa scriveva? Visco mette in piazza i redditi degli italiani. Una cosa contro Visco, naturalmente, no? Il giornale di oggi, evasori in cella, redditi su web, ci siamo. Come cambia il tempo? Vado, questa volta deciso che vado. L'epopea Azzolini, il mitico Azzolini, te lo ricordi, no? Quello è un bravo quel senatore. Beh sì, sicuramente lotta come un leone e combatte. Cioè, una bella dialettica, cioè. Avevamo conosciuto Azzolini naturalmente con la questione pensioni che era rimasta così appesa e il relatore della manovra era rimasto un po' così, diciamo, fumoso. Sentiamo. Le pensioni? Mo sto stato a lavorare io, guarda, io qui sto a lavorare. Se saltano le pensioni, come le compensi? Non lo so, diciamo, è la stessa cosa che dicevo, se adesso facesse il temporale per me. Siamo a lavorare. Sentiamolo ieri, manovra chiusa, Azzolini. Io le voglio insegnare qualche cosa, così lei stasera va a ripetizione e impara. Il Parlamento legifera mentre il governo gestisce. Andiamo avanti. Ti lascio adesso. La manovra nei suoi termini sostanziali è da ritenersi chiusa adesso. Noi speriamo di approvare, non speriamo. Abbiamo l'impegno di approvarla nei tempi definiti. E poi lo scontro qui alla Zanzara, scontro all'ultimo sangue, sentiamo, tra Cruciani, Parenzo e Azzolini che combatteva come un leone. No, se lei non è preparato, di che parliamo io e lei? Parliamo della manovra, e di questo devo parlare adesso. Per fare una manovra per l'Italia bisogna molto prepararsi, studiare molto. I contadini studiano molto come me, lei lo fa? Ma lei fa, studia lei, e prima di parlare deve studiare. Ancora. Quando vorrà venire a studiare, anche a scuola serale, dopo scuola sono pronto, riesco a trovare il tempo anche per fare questo. Chiedevamo semplicemente al signor Azzolini, non lumi sulla manovra economica, di cui non ce ne fregava assolutamente nulla, perché sappiamo tutto quello poco che si può sapere dalle agenzie, dai giornali, eccetera, eccetera, bensì la sua furbata, che noi abbiamo chiamato paraculata, lui si è molto arrabbiato, che consisteva esattamente in questo, cioè dire nel 2006 lui era sindaco, poi si è dimesso nel 2008 semplicemente per fare il senatore, dopo si è ricandidato per rifare il sindaco, perché c'erano delle incompatibilità e lui le ha superate in questo modo un po' furbesco. La legge lo impone e l'ho fatto. Mi sono dimesso, poi mi sono ricandidato e la cittadinanza mi ha rivotato. Lei ha qualche cosa in contrario? No, la paraculata le fa lei, si rivolga a me, non mi conosce, si rivolga con educazione. Non so che sia ste paraculate, quelle le fa lei, non io. Ti lascio. Azzolini. Un grande spolvero ieri a Radio 24. Andiamo con Claudio da Udine. Buonasera. Due cosette veloci. Prima cosa, vorrei fare un esempio di come uno come Berlusconi non debba fare il Presidente del Consiglio e comunque non occuparsi direttamente di politica. Allora, in questi giorni si stanno vendendo delle frequenze del telefono, del 4G. Si parla già da, si parte da 2,5 miliardi in su e si saranno offerte di del 3% a salire. Sì, però non ci sono frequenze libere sul digitale, sì, no? Digitale terrestre, 6 frequenze libere, sì, che hanno un valore molto superiore a quello del, del telefono, sì, e invece c'è stata fatta una legge per cui verranno praticamente regalate i soliti noti che sono Mediaset e Rai. Sì. Questa è una vergogna, in tempi in cui non sappiamo dove tirare fuori i soldi in, in qualsiasi maniera, e questi qua regalano delle frequenze che sono praticamente di cui è titolare lo Stato, no? Sì, quindi, sì, claro, ho letto di questa cosa, che è una cosa molto tecnica. No, è una vergogna. A parte la tecnica, è una vergogna, perché all'estero prenderebbero 20 miliardi questa roba qua, quando noi invece le regalano, è una cosa vergognosa. Sì, bisogna trovare anche, bisogna trovare anche chi se le compra, naturalmente, no? Questa, no, ma è chiaro, ma se non le mette all'asta nessuno le comprerà, eh? Sì. Se le regalano facendo delle leggi apposta per regalare i soliti noti, è assurdo, no? Bene, grazie. Se lei pensa, sì, posso dire ancora una cosa, poi chiudo. Come no? Lei pensi che Europa 7, no? Sì. Quella che aveva diritto alla frequenza diretta 4... Sì, però 4, adesso non ci rifaccia di nuovo la storia di Europa 7. No, ma per farle capire, a Europa 7 è stata data una frequenza della RAI che, sì, non copre neanche l'80%, sì, che copre, sì, il 65%. Lo, cioè, sappiamo. È una cosa vergognosa. Lo sappiamo, grazie. Buone. Leonardo da Brescia, buonasera. Buonasera a lei. Io volevo fare un intervento in controtendenza. Controtendenza. In questo senso che dove sei arrivato, Parenzo? Scusi un attimo, Leonardo. Dove sei arrivato? Sto sbarcando qui alla, alla Tiburtina. Dunque, sei arrivato in tempo? Sono arrivato in tempo, ma adesso qui. Hai dato, hai dato i soldi al signor tassista o no? Sì, sì, gli ho dato un 5 euro di mancia. 5? Avevo detto 10 io. Ma c'è l'inflazione, c'è la crisi. Anche lui si è reso conto che non era il caso, no? Beh, insomma, io avevo un accordo di ferro con il signor tassista. Accordo fatto, buonasera. Pronto. Dove sei? Stai salendo sul torpedone? No, sto cercando di andare qui. No, perché l'ingresso sul torpedone è fondamentale. Dove c'è, ecco, ti aspetta che ti passi una persona che ti... Aspetta un attimo, io compro dei giornali. Sì. Signor Cruciani. Con chi parlo? Signor Cruciani, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, lei? Ci diamo del lei? Sì, beh, più o meno, sì, se vuole ci possiamo dare anche del tu. Che sta facendo adesso, Parenzo? Non so il registro della trasmissione di questa sera, non conosco perché non ho ascoltato, sono impegnato sul lavoro. Sì. Quindi sono un po' più in difficoltà del solito. Ma che sta facendo Parenzo in questo momento? Parenzo si dà a grandi acquisti culturali. Culturali che sta comprando? Le solite cose? Chi? Gente? Oggi? Questa roba qua? Sì, Novella 2000. E detto poi con tutto rispetto. Si abbevera alla fonte. Si abbevera alla, si fonte. Abbevera alla fonte. Bene, grazie, sì, grazie, grazie. Grazie a lei. Grazie, passi una buona serata. Andiamo. Tanto, state bene, ciao. Paolo d'Ancona, anzi no, eravamo con Leonardo. Leonardo, scusi. Sì. Allora, che sta dicendo? Che sta dicendo? Spero che Parenzo si sia fatto dare la ricevuta dal tassista. A parte questo, dicevo che volevo fare un intervento in controtendenza, in che senso? Io sono uno di quelli che paga le tasse e ritengo che se vogliamo mettere a posto, sì, la situazione italiana e rirenderci credibili, sì, sui mercati internazionali, tutti dobbiamo pagare le tasse, anche quelli come me che sono a stipendio, perché sennò noi non ci renderemo credibili nei confronti. Vabbè, Leonardo, però lei sta dicendo, scusi, io penso che la gente normale come me, sì, finisco, sia lieta di dover pagare parte del proprio... Sì, Leonardo, però non mi faccia... Per risolvere i problemi. È scontato che dobbiamo pagare le tasse, mi dica qualcosa di un, sì, po' ma più... Non deve, ma non deve pagarli solamente, solamente chi paga, ha un reddito oltre i 150.000, e non deve essere la solita truffa di dire chi evade più di 3 milioni di tasse, ma chi vogliono prendere in giro 3 milioni di tasse, ma devono andare a prendere quello che evade... 50.000 euro, 30.000 euro, 3 milioni di tasse vuol dire avere un impunibile milionario. L'evasione è fatta da tante piccole evasioni, che sono l'idraulico, che sono l'elettricista. Sì, vabbè, certo, certo. Lei sta dicendo che bisogna andare a prendere quelli. Sta dicendo che allora, 3 milioni di euro per la soglia per il carcere, che secondo me poi è una cosa che non passerà mai. Ma bisogna minacciare il carcere, anche quello essere... che evade i 10.000 euro, se no lei i problemi non li risolve. Ho capito benissimo. Ma a parte questo, sì, ma prima di arrivare lì bisogna prima mettere a posto i conti. Sì. E per mettere a posto i conti dobbiamo tutti mettere mani al portafoglio. Su questo non ci piove. Beh, bisogna vedere. Perché portare a casa i soldi con l'evasione fiscale quando non riusciamo neanche a portare a casa 2 miliardi e 700 mila euro già contabilizzati dalle evasioni precedenti, mi spieghi lei come si fa a pensare e dire io riprenderò dall'evasione che andrò a prendere. No, lei ha ragione, è una cosa pazzesca, ci stanno pigliando per il culo un'altra volta. No, no, ma io sono d'accordo su lei e con lei sul fatto che scrivere recuperiamo i soldi dall'evasione fiscale non ha senso in una manovra, cioè quello dovrebbe essere fatto sempre e poi non ci sono entrate certe. E di qui anche l'intervento dell'Unione Europea. Dove sei? Finalmente sul torpedone, Parenzo? No, è alle 20.15, sto facendo stampare il biglietto. Bene, intanto ti presento Matteo Salvini in collegamento dalla Liguria, buonasera. Buonasera a chi ci ascolta. Come andiamo, signor Salvini? Buonasera, onorevole. Andiamo bene, andiamo male a seconda dei punti di vista. Io vado in macchina. Come ha passato quest'estate lei? A lavoro oppure in giro per montagne? È in Liguria. Il Parlamento europeo ha già ripreso questa settimana, io ero martedì a Bruxelles con la mia commissione, mi sono permesso un weekend in Valchiavenna, e saluto tutti gli amici da Spendi da Valchiavenna, e una settimana in Sardegna, e saluto gli splendidi amici sardi incontrati quest'estate. Saluti a tutti, amici sardi, amici di Chiavenna, una cosa pazzesca. Ecumenico l'onorevole Salvini. Parenzo? Sì. Io sono triste per Borghezio. No, mi dispiace, questo esilio di Borghezio di 3 mesi. Sì, mi dispiace che oggi abbia comunicato che è amareggiato, è molto amareggiato. Anche perché non può lottare a pieno, cioè non è il solito lottatore. Non è il solito lottatore. Cioè, no. È un moderato, è diventato... No, moderato adesso non esageriamo. Beh, ultimamente non ha più detto nulla di roboante. Vabbè, quello magari fa bene perché uno un po' si deve limitare. Certo, poi Borghezio non è che può cambiare, non è che può diventare... Appunto, cioè, è come se no, capito? Borghezio moderato è un ossimoro, come dire Vergine Madre, un ossimoro. Assolutamente. Senta, Salvini, lei definirebbe l'Italia un paese di merda come ha fatto Berlusconi? No, anche se Berlusconi ha tanti difetti, ogni tanto potrebbe controllare quello che dice e quello che fa, è vero che è un paese preoccupante quello dove finiscono sui giornali intercettazioni senza nessun rilievo penale. Io penso che chiunque sia all'ascolto, probabilmente del capo ufficio, della moglie, della figlia o della suocera, al telefono con un amico ne può dire di ogni in qualche frangente, e vedersi finire sui giornali se non c'è un'indagine in corso, questo è sì da paese di merda. Poi perché altre cose l'Italia è un paese di merda? Facciamo l'elenco, no Parenzo, che dici? Facciamo l'elenco di Salvini, perché l'Italia è un paese di merda? Tutti noi pensiamo... Non è assolutamente attendibile, però parlando spesso con diversi imprenditori che si trovano a lavorare in Italia e poi si trovano a lavorare all'estero, è un diverso modo di vivere, è un diverso modo di essere pagati, è un diverso modo di avere ragione dalla giustizia, quindi spesso e volentieri mi confronto con imprenditori, non mega imprenditori. Che dicono è un paese di merda, questo me ne vado. Me ne vado, io vi ringrazio per Drupi, perché vado via ed è il 1973 il mio anno. Drupi è fantastico. Drupi è un fratello lombardo che risento sempre. Vado via la canzone, com'era? Rimandiamola un attimo. Vado via, che insomma, che naturalmente si adatta perfettamente alla frase di Berlusconi. Vado, questa volta deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu? Beh, insomma, c'è Calderoli che dice sono d'accordo al 100% con la frase di Berlusconi. Sono d'accordo al 100%. Non sempre sono d'accordo con Berlusconi, non sempre sono d'accordo con Calderoli. Cioè, non si deve dire paese di merda? In ogni caso, oppure è una frase così pronunciata in privato ed è una vergogna che sia pubblicata sui giornali? Io ne ho dette di peggio, quindi ho chiesto scusa anche se del caso. In questo frangente la vergogna non è che Berlusconi abbia detto me ne vado, è un paese di merda, è una vergogna degna del Congo belga, con tutto rispetto del Congo belga, della Corea del Nord. Poi c'è in ballo Berlusconi e quindi qualunque cosa riguardi Berlusconi è drogata, però ci fosse stato Cruciani al telefono con Parenzo che avrebbe detto l'Italia è un paese di merda, probabilmente anche loro si risentirebbero qualora questa loro conversazione privata, magari un po' scurrile ma privata, finisse sui giornali. Ecco, se un paese mette sui giornali quello che ci si dice fra Presidente del Consiglio, fra taxista e cliente, non è un paese del tutto normale. Allora, la frase esatta e è questa. Non è un paese normale quello dove abbiamo beccato nei controlli 50.000 falsi invalidi e solo in un quartiere di Napoli, che è il quartiere di Chiaia. Ma lei quante volte le capita di dire questo è un paese di merda? in privato, naturalmente. Mi può essere, adesso non è che me lo annoti onestamente. No, però annotarlo essere, no. Mi può essere capitato quando ecco, io lunedì ero in ufficio in comune a Milano e ho incontrato due anziani che abitano in zona Piazza Prealpi, quarto Giara, sì, Milano, che sono in attesa della pensione di invalidità e mi hanno portato fior di certificati, medici, controlli ed erano evidentemente, palesemente bisognosi. Ecco, quando vedo che loro stavano aspettando da 8 mesi mentre ci sono appunto un esercito, noi abbiamo scovati 50.000 coi controlli, ma ce ne saranno altri 200.000 di falsi invalidi. Dice paese di merda. Cioè, per esempio, se guarda la vicenda della Monnezza non risolta a Napoli, le viene da dire paese di merda, sì. Un paese di, a Genova dicono di rumenta, ecco, magari più e meno volgare. Un paese a Genova di? Sì? Rumenta, la rumenta. A Milano è la Ruera, a Genova è la rumenta, però sicuramente un paese che ha una città in emergenza rifiuti da 18 anni è un paese di merda. Beh, capito, ognuno poi ha il suo parametro per il paese di merda, Parenzo, questo non c'è dubbio. Sì, ma io l'ho detto anche prima, cioè non è lo scandalo che nella conversazione telefonica, la cosa che mi stupisce di più e su cui vorrei sentire parlare di Salvini è perché Berlusconi deve parlare al telefono con un signore come La Vitola, cioè questo è un po' il problema, perché il signor La Vitola è editore dell'Avanti. Il suo premier parla al telefono con il signor con Tarantini e il signor La Vitola. Lei ci parla con queste persone al telefono, non credo, signor Salvini, no? Ma no, se mi date il numero magari ci faccio una chiacchierata anch'io con questo signor La Vitola, però capisco, se uno parla con Scilipoti può parlare anche con La Vitola. No, il mio amore per Scilipoti, che gli ascoltatori conoscono bene, però Scilipoti è un deputato curioso, eclettico, e avvisatelo come volete. Avete detto che è un editore, editerà qualcosa, quindi è un personaggio che è in mezzo a un sacco di traffici, eccetera. Tarantini, beh, per carità, poi ognuno può parlare con chi vuole, cioè non è che sono dei banditi matricolati, magari poi sarà certificato che saranno dei banditi, non lo so. A proposito di chiacchierate, come milanesi stiamo leggendo in questi giorni delle chiacchierate di Penati e compagnia, quindi c'è poco, magari non hanno detto merda, però probabilmente c'è anche qualcosa di più grave. Cioè lei dice, se uno parla al telefono con Scilipoti può parlare tranquillamente anche con La Vitola e con nella mia rubrica telefonica ho tanti numeri di telefono, onestamente non conosco il passato, il presente e il futuro di tutti quelli con cui parlo al telefono. Ma lei ci crede che Berlusconi è stato generoso, così generoso da dare 500.000 di euro a Tarantini perché era una famiglia finita sul lastrico, eccetera, oppure pensa che sia ricattato? Quando vi ho ascoltato mezz'oretta fa durante la trasmissione mi è venuto spontaneo dire... ci saranno all'ascolto almeno 50.000 persone che a questo punto andranno fuori da Arcore per essere aiutati anche loro. È così. Non lo so, però può essere anche un tratto di estrema generosità. Però non mi pare uno può cadere in disgrazia, per carità, guadagnare molto, fare una vita agiata come pare facesse Tarantini e poi cadere in disgrazia. Non mi pare il prototipo di famiglia bisognosa, insomma, no? O no? Diciamo che ne conosco tante di famiglie che sono costantemente in disgrazia, quindi non hanno avuto l'alto e il basso, hanno avuto solo il basso e probabilmente nei panni loro qualche dubbio su questa generosità berlusconiana magari mi verrebbe. Ecco, a lei non le dà fastidio il fatto che, perché da poi ognuno con i soldi propri fa quello che vuole, le donazioni dovrebbero essere fatte da parte delle istituzioni in un altro modo, però Berlusconi è fatto così, non cambierà mai, si comporta nello stesso modo in cui si è sempre comportato anche da privato cittadino e non da persona delle istituzioni. A lei non dà un po' fastidio questo atteggiamento di distribuzione, per vari motivi che non stiamo a indagare, sta indagando la magistratura, di distribuzione continua di denaro, almeno così viene fuori, o no? Non le dà un po' fastidio, da uomo di popolo, da leghista, da milanese di periferia? Ma se devo essere onesto, uno dei suoi soldi è libero di fare quello che vuole, li dà in beneficenza, chi vuole, come vuole, quando vuole. Mi danno più fastidio, visto che sentivo gli ascoltatori parlare di evasione fiscale, ritornando al libro del professor Ricolfi, se qualcuno ha 22 euro da spendere vada in libreria, Il sacco del Nord, mi danno più fastidio da milanese appunto i 50 miliardi di euro che ogni anno partono da Nord. Vabbè, ma quella è un'analisi politica sulla situazione del Nord e Sud che è diversa, però non le dà fastidio sapere continuamente che escono dei soldi da Arcore in direzione di persone e si parla sempre di generosità? Lei non ci crede alla generosità di Berlusconi, mi dica la verità. No, ma io ci credo, per carità di Dio, l'ex amministratore di Unicredit, Profumo, quando ha avuto la maxi liquidazione di non mi ricordo quanti ha detto che dava in beneficenza. Ha dato 2 milioni di euro alla Casa della Carità, di Milano che assiste i Rom, assiste i clandestini, ognuno dà i suoi soldi, io non sono entrato nel merito, ognuno fa la carità che vuole, ai tarantini, ai Rom, io farei altro genere di carità qualora ne avessi la disponibilità, però con tutte le critiche che posso muovere a Berlusconi, onestamente non è questa la non è quella la generosità, però Tarantino non le appare come una persona bisognosa, insomma ce ne sono tante. Ho per il presidente Berlusconi un lungo elenco di milanesi che magari un pochino più di Tarantini avrebbero tirato. Presento a Berlusconi un elenco di milanesi più bisognosi. Bella, questa non è male. Salvini, la questione di Tarantini è imbarazzante solo per una ragione, perché il signor Tarantini sarebbe quello che portava ad Arcore le signorine, solo per quello ne stiamo discutendo. Ah, quindi, non c'è dubbio. Se non capiamo chi è il signor Tarantini, non ricordiamo che è il signor Tarantini, Giampi Tarantini, il signore era Daddario. Secondo l'inchiesta, Berlusconi avrebbe pagato per fare stare zitto Tarantini, per patteggiare. Sembra che sia tutto uguale. Cioè. Ma sa che non mi ha mai appassionato onestamente questa vicenda, come non mi appassionarono le vicende private di Marrazzo, di Sirkan. Io Berlusconi lo peso e lo valuto in positivo e in negativo in base ai risultati della sua attività di governo. Io quest'estate ho proposto la regolarizzazione della prostituzione con tanto di tasse. Oh, meno male, questa è una buona notizia. Dove la farebbe a Milano, un bel quartiere a luci rosse a Milano? Dove lo metterebbe? No, non un quartiere, in abitazione private, in esercizi commerciali. No, un quartiere, non un bel quartiere a luci rosse? No. Ma voi pensate che le centinaia di centri massaggi che sorgono come funghi, con tutto rispetto per le massaggiatrici vere, siano dei centri massaggi? Si vocifera su quelli cinesi qua a Milano, no? Ma io lo rilancio al ministro Tremonti, visto che siamo a caccia di soldi. Sì. I soldi ce ne sono parecchi se andiamo a tassare. Purtroppo l'Italia è la proposta a Tremonti, anche... regolarizziamo la prostituzione, pigliamo un sacco di soldi. Un attimo, abbiamo la pubblicità. Torniamo subito per altre due domande a Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord, che si trova in Liguria ancora in vacanza. Cioè ancora in vacanza, in realtà no, è già tornato. Insomma, in Liguria per un weekend, c'è poco da fare, è inutile. Non è una cosa strana, no Parenzo? È normale, insomma. Anche tu stai andando a fare un weekend, mi sembra, no Parenzo? Ora sto mangiando la pizza che mi ha regalato l'edicolante. Una cosa indegna, vabbè, pubblicità. Vado, questa volta deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu? Bene, siamo qui 800 24 00 24. Parenzo, hai finito di mangiare la pizza e di avere la bocca ingolfata dalla... No, bravo, mi hanno offerto un... perché c'è gente che lavora anche in questo paese, quindi c'è questa edicola della Tiburtina, sì, dove il venerdì è aperta per lungo tempo, sì, e sono tutti ragazzi che lavorano. Vabbè, ho capito, non è una cosa strana lavorare. No, hanno zero, ma che hanno zero, amico? Vabbè, ma adesso lasciamo perdere questa discussione tra questo signore che devo salutare. C'è un signore, questo signore è importante. Vale del consiglio Cruciani. Cruciani, buonasera, chi è? Sono per la sette, Mario di Massa d'Albe. Salve, sono, mi dica. Sono appassionato per la sette. Che me ne frega a me se lei è appassionato per la sette? Mi bus. Vabbè. Vedo tutto. Va bene. Alla sette, ma lei? Ma io che c'entro? Ah, del centro? No, io non c'entro niente. Ma chi mai... Non c'entra niente. Parenzo, ma chi mai passato? Ho trovato un amico e allora... Ma... Un amico adesso. Vabbè, okay. Fatti ridare il telefono, va. Poniamo fine a questa parte. Grazie, arrivederci. Sì, ho capito, buonasera. Non mi interessa nulla. Ho liquidato così questo telespettatore, scusa. Ho liquidato... Non si trattano così i telespettatori. Ma non è un telespettatore. Tra l'altro questa qua è la radio, non è la televisione, ti volevo ricordare. particolare. Comunque, vabbè. Senta, ma... Salvini, sorge il dubbio che in realtà in questa manovra finanziaria tutta un po' complicata, le pensioni con la Lega che si oppone a diverse cose, l'aumento dell'età pensionabile, province, Berlusconi in realtà conti, ma quanto conta ancora Berlusconi? Conta poco? Ma è il Presidente del Consiglio, immagino e spero che conti, anche se alcune scelte... La sua totale opposizione al cosiddetto contributo per i super redditi, onestamente non l'ho capita. Beh, però no, come? Era una rapina, era. Una rapina in che senso? Era una rapina, io l'ho definita una rapina. Una rapina. E su questo non sono d'accordo. È gente che già pagava le tasse. Salvini, è gente che già pagava le tasse. Se uno ha 1 milione di euro di dichiarazione, non penso che i 10 o 20 mila euro in più o in meno gli cambino la vita. No, a lui no, a parte che non era questa, era superiore per chi ha 1 milione di euro, ma lasciamo perdere. Ma a chi ha 100.000, 200.000, eccetera, cambia, come se non cambia? Guardi, io non ho la fortuna di arrivare a quelle cifre, ma se guadagnassi 200.000 euro, dare il 10% in più dei 200.000 che guadagno, onestamente in un momento come questo non mi parrebbe uno scandalo. Comunque, in un momento come questo, caro Parenzo, se ancora sei all'ascolto oppure magari stai chiacchierando con qualche avventore di una pizzeria. Se mi fermano per strada, no, cosa fare? Sto scherzando. Un calcio. No, perché in questo momento è stata presentata la candidatura per le Olimpiadi che dovrebbero svolgersi che si svolgeranno nel 2020, la candidatura di Roma. Hai capito, Parenzo? La candidatura di Roma 2020. Salvini, lei che dice? Una buona idea quella di candidare Roma alle Olimpiadi? La peggiore idea che potesse venire fuori in questo momento. La peggiore addirittura, come mai? Perché? Mi auguro che vinca chiunque tranne Roma, ma non per astio, perché il leghista, per i romani, perché abbiamo visto in Italia quando si organizzano manifestazioni di questo tipo, i mondiali di nuoto di Roma li stiamo pagando ancora adesso, per intenderci, quindi mi auguro che il Comitato Olimpico Internazionale le assegni a Timbuktu piuttosto che a Roma. Diciamo che la corsa di Roma inizia con il piede giusto. Secondo lei dunque tutti, è meglio tutti tranne che Roma? Guardi, noi abbiamo delle costruzioni non ultimate per i mondiali di Italia 90 ancora vicino a Milano, quindi siamo già messi male, delle Olimpiadi a Roma sarebbero la mazzata finale, penso. Cioè sarebbe la solita ruberia italiana, opere mai finite, altro che sprecopoli, altro. Ma ripeto, se uno adesso torna a casa, digita mondiali nuoto Roma, ed erano dei mondiali di nuoto, un evento infinitivamente più meno rilevante, eppure c'è stato un buco di non mi ricordo quanti milioni di euro, figurarsi con le Olimpiadi. Cioè fossero, insomma, poi non portano tanto bene, le Olimpiadi ad Atene non è che abbiano portato moltissimo alla Grecia. Quello anni dopo c'è stato il default della Grecia. Però insomma, Non solo da padano, ma mi auguro anche per i romani che Roma non abbia le Olimpiadi. Senta Salvini, ma se fossero bravo Salvini, ha ragione, Olimpiadi Roma sono le Olimpiadi della corruzione, l'unica roba che funziona sono le Olimpiadi della corruzione a Roma. Scusi Bossi, da dove sta parlando lei, signor Bossi? Sono la Villa Reale di Monza, la Villa Reale, il mio ufficio, la Villa Reale di Monza. Ma non c'è nessuno in quell'ufficio, è chiuso. Dai zitto, sei un coglione a crociare, devi andare del bastonate. Se proprio bisogna fare le Olimpiadi a Roma, bisogna mandare un commissario dal nord. Io ho il nome di un ragazzo giovane, bravo, preparato. Chi è? Ha 21 anni, si chiama Renzo, bisogna mandarlo a Roma. Ma chi? Renzo, cioè, chi? Renzo chi? Si chiama Renzo Bossi, una roba di coglioni, sei il solito cretino, sei lì a rubare il posto a noi lombardi. Ma sono, scusa, ma Renzo parlo. Bossi sta al consiglio regionale. Quello non c'entra niente, ancora per qualche anno, poi dopo bisogna trovare la collocazione. Parlato già a Roma, Alemagna, e abbiamo detto che bisogna fare le Olimpiadi a Roma. Col controllo del nord, mandiamo giù Renzo Bossi con il commissario straordinario. Ho parlato con Calderoli adesso. Vai via. Ho capito, ma Renzo Bossi, commissario straordinario. Sì. Hai detto una roba intelligente, l'hai proposto tu, bravo, finalmente ti stai paralizzando. Renzo Bossi, commissario straordinario, per sovrintendere alle ruberie, altrimenti c'è solo una cosa che possiamo dire. Nerone, è stato il più grande romano. Ma come Nerone? Nerone, quella... il più grande romano. Vai, sei un coglione crociato, non capisci niente. Non è, sei venuto a Milano a rubarci le donne, a rubarci le donne. I posti di lavoro, i posti delle donne soprattutto, cioè rubato anche i posti di lavoro. Parlo con la Macegaglia, con Bomba 6, con tutta la Confindustria. Vai via. Vattene, impara a Salvini, cretino. Vai via, tornatene a Roma a fare le tue zanzare a parte, a ridere, a scherzare, a fare i lazzi. Vai a Roma, lì, a Roma, tutto. capito. Giorno che non fa. Vabbè. Vai a Roma, vabbè, vai lì a ridere, con Nero, vai lì, il giorno che Nerone butta l'accendino con la sigaretta, salta tutto per aria, vai a Roma, vai a Roma. Ho capito, grazie, grazie a Umberto Bossi in questo collegamento speciale che ormai abbiamo instaurato con la villa di Monza. Beh, insomma, un Bossi scatenato, come è normale non che sia. Non è la pizza quella di Parenzo, erano funghetti allucinogeni. Però devo ammettere, Salvini, che non è male. Cioè, adesso, voglio dire, le cose noi le valutiamo, alcune le facciamo cadere perché ci vengono male, come succede sempre. Questa qua non è male, questa qua, non è male. Non è male, non è male, anche se difendo il diritto di Beppe Cruciani di rimanere a Milano. Oh, meno male, meno male. Senta, ma se... coglionito anche tu, Salvini, via, mandalo via, via, posti al nord, voglio vedere io questo già da parte che vai un cazzo cretino, ai delle battonate che ti diamo, le legnate in testa, ma quello devo legnare tutti i giornalisti, boss, fermatelo, no, tutti quelli coglioni come te che fanno ai perché la guardia padana ti ha già preso a calci del sedere e ti rimanda a Roma a calci del sedere, tu e tutta la struttura ai tutta quella gente lì, vabbè. Vabbè. Gentaglia, gentaglia che hai portato da Roma. Ma io non ho portato nessuno. Va bene, tu, grazie. Hai portato le tue donne, cioè portato le donne del nord. Manca ancora con queste donne del nord, ma è impazzito. Ci hai portato io, c'è più niente per nessuno. Tu è Alfano, tu è l'arabo di Alfano, col nome arabo, c'è Alfano. Questo l'ho già sentita, Alfano, nome arabo. Bisogna ripetere la serie, Alfano, tutto scuro di pelle lì, dalla Calabria Saudita, Alfano. Senti che nome arabo, senti come suona, Alfano. Vabbè, non ce la faccio io, grazie Umberto Bossi. Senta, Salvini, se le Olimpiadi fossero organizzate, che ne so, a Venezia o Milano, sarebbe più tranquillo? Beh, a Milano abbiamo altro tipo di approccio, a Milano c'è, a Monza anzi, c'è un gran premio automobilistico che è il nostro gioiello da sempre, che Roma avrebbe voluto fotterci, però fortunatamente è ben organizzato dalle nostre parti, però non penso che in questo frangente l'Italia abbia soldi da spendere per iniziative di questo tipo. Bene, grazie. Grazie a Matteo Salvini, un saluto da Recco, dove passerà il fine settimana, non gliene frega niente a nessuno, però così noi facciamo sempre queste notazioni così per localizzare le persone. Siamo qui, Zanzara Party di questa sera, che ci è stato bocciato da Umberto Bossi in collegamento tra Villa Reale di Monza. Cos'è? Un'altra pernacchia di Bossi? Per forza, sei il solito cretino. Ma è ancora in collegamento lei? Sì, è in collegamento, il telefono è sempre aperto e noi siamo sempre reperibili, noi del nord, 24 ore su 20, ma mica come voi siete venuti lì a rubare le donne il lavoro. A proposito, sono qui con un ragazzo di 21 anni molto bravo. Ancora? Si chiama Renzo Bossi e abbiamo, adesso ve lo mando lì a lavorare un po', lo facciamo caporedattore centrale e trasformiamo quella radio 24 in una roba seria dove parliamo 24 ore su 24, stai zitto che ti legniamo, se no rompi con ti veniamo veramente a prendere, vai via, hai finito. Vabbè. Andiamo a raccogliere la raccogliere il parere, non so su che cosa, di Davide della provincia di Foggia. Signor Davide, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Durante la trasmissione di ieri riflettevo sull'accostamento fra la fotografia del Presidente della Repubblica e la fotografia di Bossi in queste fantomatiche sedi ministeriali al nord. Ma sono anni che il Presidente del Consiglio si presenta agli italiani in messaggi video in cui dietro accosta la bandiera italiana con la bandiera di Forza Italia. Sì. Quindi ormai, insomma, sacro e profano sono stati mescolati. Non credo che ci possiamo più lamentare tanto ormai. Sì, vabbè, insomma, adesso ci fu una polemica perché in una sede istituzionale Berlusconi a un certo punto fece un video messaggio in cui c'era la bandiera di Forza Italia. Adesso non andiamo a a sottilizzare troppo, non mi ricordo, è sbagliato sempre mettere le bandiere di partito nelle sedi istituzionali, su questo non c'è nessun dubbio. È sbagliato. Dunque i simboli di Alberto da Giussano, non so di chi, della Lega, in uffici governativi, che dovrebbero essere quelli della Villa di Monza, andrebbero tolti. Esatto. Poi, per carità, ognuno si può portare sul proprio tavolo quello che vuole. A casa propria, di tutto. No, ma anche su un tavolo di lavoro, cioè non è che adesso non esageriamo. Però se uno deve sembra che in uno di questi uffici, ti ricordi, David, c'era l'effigie di Napolitano insieme a quella di Bossi. Adesso questo forse andrebbe evitato. Poi se uno si vuole portare la fotografia di suo nonno, di sua moglie, ma se uno sulla scrivania si vuole mettere anche l'Alberto da Giussano, non è che possiamo impedire, no? Ma no, ma insomma, non esageriamo. Alberto da Modena, buonasera signor Alberto. Sì, buonasera, guardi. Dica. Io chiamavo perché relativo alla manovra economica che sì. Stiamo facendo. Che ci vuole dire? Niente, riguardo alle dichiarazioni online, sono d'accordissimo che possono essere messe, però ci piacerebbe anche sapere e avere i rapportini delle spese che fanno i nostri politici, visto che loro... Che vuol dire le spese che fanno i nostri politici? Scusi, lei vuole capire se la signora, che ne so... Pallino oggi Mussolini, è andato al ristorante speso... Ma lei è impazzito, Alberto? Non ho capito. Cioè, usano i soldi di tutti. Cioè, ma che vuol dire? Ognuno spende i soldi come vuole. Cioè, lei vuole sapere se la signora Mussolini oggi è andata a comprarsi un vestito a Piazza di Spagna oppure è andata a mangiare da Giannino oppure non so da chi. No, mi dica, perché mi sembra una cosa ridicola. Ma non è ridicola. Io ho degli agenti di commercio che tutti i mesi mi mandano un rapportino di tutte le spese che fanno. Lei ha, scusi, degli agenti di commercio? Ho capito, ma lei ha degli agenti di commercio che evidentemente vengono da lei e fanno le spese per quello che riguarda le attività di lavoro. D'accordo, certo. Che tipo di spese lei pensa che debbano essere pubblicizzate? Ovviamente le spese delle macchine blu, sicuramente. Vabbè, ma quello che c'entra, le spese delle macchine, le macchine blu hanno un costo che è quello che dipende dal loro utilizzo, dai chilometri, dalla benzina, dall'affitto. Vabbè, quello sono d'accordo anch'io, ma non ho capito qual è la... Possono girare tranquillamente, guardi, io ho una ditta, giro tranquillamente con un 1.6 diesel. Io sono stato a Roma, la macchina più piccola che ho visto era un Jaguar, un Maserati o delle Audi. Non ho visto una macchina, un'auto blu che fosse un 1.6. Allora, questo dove? A Roma. Sì, Alberto, poi c'è anche un caso che riguarda, credo, la direzione del penitenziaria con delle macchine. Penitenziario che ho sentito, sì. Spendono un milione... No, Alberto, ma lei da questo punto di vista ha ragione, non capisco quando dice bisogna sapere come i politici spendono i loro soldi, cosa vuol dire? No, i loro soldi che lo Stato dà a loro... E come rimborso, cioè nel senso avranno dei rimborsi. Alberto, ma su questo, dire questo è una cosa scontata, che ci voglia trasparenza da questo punto di vista è scontato, cioè non c'è dubbio, cioè, però non viene mai fatto, il problema è quello. Ma cos'è che non viene fatto? Non l'ho mai visto, cioè io sono d'accordo che venga pubblicata la mia dichiarazione dei redditi, sì. E che sia visibile a tutto quanto guadagno, dove sì, ma guardi che quella dei deputati è già pubblica, cioè sì. Già per i deputati è già si fa così. Certo, ma deve essere così per tutti, non sta dicendo. No, io non so se deve essere così per tutti, per i deputati è così però. Sì. Ogni anno viene pubblicata la dichiarazione dei redditi dei singoli deputati, con le azioni, le partecipazioni, il totale del reddito, eccetera, eccetera. Certo. Cioè, non ho capito quando lei dice come deve essere chiaro come spendono i loro soldi. Come spendono i nostri soldi delle spese che hanno, cioè le dico, l'auto blu, cioè se uno gira in l'auto blu non è che non appartiene al deputato, appartiene all'istituzione. L'istituzione è lo Stato, Sì, no, ma ho capito quello che vuole dire. E lo Stato chi è? Alberto, lei sta dicendo una cosa veramente lapalissiana, cioè ci vuole trasparenza da questo punto di vista, cioè ci vuole assoluta chiarezza quanto si spendono le auto, quante sono le auto blu, d'accordo, ma è scontato. Un'altra cosa che si può fare, tranquillamente parlano tanto di evasione fiscale, controlliamo questo, togliere l'evasione fiscale è molto semplice, si fa scaricare tutto a tutti. Quindi questa è una teoria di cui si discute da un sacco di tempo, c'è la questione del contrasto di interessi che invece è interessante. Io ho un'attività commerciale, il mio problema non è, guardi, io faccio scontrini e vendo a banco, tante volte discuto col cliente perché non vuole lo scontrino, non vuole pagare l'IVA in privato, capisce? Cioè, e io tante volte sono a discutere per fare lo scontrino, e faccio lo scontrino e lo butto nel bidone del rusco, capisce? Sì, ho capito. Bene, grazie, traffico, devo dare il traffico. Salve. Eccoci, Livio da Roma, Livio ci chiama da Roma, 800 24 00 24, dica. Senta, io volevo fare tre considerazioni. Allora, Sono perfettamente d'accordo con Silvio Berlusconi quando dice che questo, l'Italia è un paese di merda. Sì. In quanto, bene, iniziamo bene. Questa Italia ha tenuto questa classe politica da 18 anni, tiene. Questo è il punto. Sì. Chiuso. Secondo, noi abbiamo praticamente, dobbiamo fare dei tagli, ci sono 341.000 auto blu. Sì. Vuol dire che facendo un... Non è vero, quella cifra là non è mai stata riscontrata, Livio, mai, mai. Vabbè, stata riscontrata. Era una cifra falsa. Allora, però siamo 60 milioni di italiani, compresi i neonati, no? È un costo enorme se noi consideriamo che praticamente ci sono praticamente ogni 100 italiani c'è una macchina blu. Livio, ma se quella cifra è falsa, di che stiamo parlando? No, è falsa, ma adesso bisogna capire. Ma non era vera, Brunetta diede altre cifre sulle auto blu, non so che quella cifra. Allora là... se le facessero sapere, perché così facciamo i conti bene. Sì, ma perché, guardi, il problema dell'Italia è certamente quello delle auto blu, però non è che se si risolve il problema delle auto blu è tutto risolto, eh. Cioè, le auto blu vanno drasticamente ridotte. Io e i politici dovrebbero andare in Parlamento. Con i mezzi pubblici, come avviene in tutti gli altri paesi. Come gli altri lavoratori. Tranne. Scusami, perché io non credo che lei abbia un'auto blu. Ma che c'entra? Mica faccio il politico io, scusi. Vabbè, ma d'accordo, però lei è un... Ci sono anche esigenze di sicurezza. Ci sono anche esigenze di sicurezza. No, dottor Luciani, un'altra cosa volevo dire. In qualche caso. Per quanto riguarda adesso la messa in scena che hanno fatto con gli evasori fiscali, no? Ma adesso lei mi dica una cosa. Chi è che in Italia... evade 3 milioni di euro? In America prima fanno lo scontrino delle tasse e dopo ti danno lo scontrino per la consumazione. Livio, Io ritengo che sì. Chi evade le tasse è praticamente uno che fa l'attentato alla Repubblica. Ho capito. In tempo di Dunque, guerra, lei dice 3 milioni sono bisogna andare in galera anche per evasioni più basse. D'accordo. Allora io dico questo. Dica. In tempo di guerra chi tradisce la Repubblica, la nazione, viene fucilato sul posto. Vabbè, adesso lei non è che si augura, credo, la fucilazione per gli evasori fiscali. No. Io sono un garantista e un pacifista. Beh, però garantista... io voglio dire questo. Ma se tu a un certo punto non paghi le tasse, non stai facendo un attentato alla nazione. Io metto dentro il calzolaio, il fabbro, tutta questa gente che non fa 3 milioni di euro, ma fa 10-15 mila euro l'anno, 30 mila euro l'anno. Non è che possiamo... gente che cammina, sì. Livio, ma non è... No, ho capito benissimo. Non paga un tubo, egregio Cruciani. No, ma lo... dichiara, ma lo... li guadagna 90 mila euro, ben mi sa. Sì, no, ma ho capito, Livio. Però il problema... devi dichiarare tutto. Ma non possiamo mandare in galera mezza Italia, è evidente che va risolto. Ma facciamo le carceri, ci sono tanti... Guardi che ci sono una marea di terreni che praticamente sono incolti. Facciamo lavorare sta gente qui e rendiamola utile. Ma non è giusto che uno che ammazza una persona dopo anni il giudice lo tira fuori, lo mette in libertà provvisoria. Ma non esiste, Cruciani. Livio. Ma noi siamo delle persone abituate in un certo modo. Io penso che lei abbia avuto un'educazione come la mia. Io raccolgo il suo sfogo e sono in parte d'accordo. Detto questo, prima di mandare in galera la gente per l'evasione fiscale, è evidente che va ristabilito un patto tra i cittadini e lo Stato. Non è che possiamo introdurre il carcere così tout court. Va messo un sistema, va riconquistata la fiducia anche da parte dello Stato nei confronti dei... ha ristabilito un rapporto tra cittadini e Stato che oggi non c'è. Dopodiché io sono d'accordo nell'abbassare quella soglia di 3 milioni di euro su cui che non verrà mai assolutamente la pena in base al tipo di evasione, no. A proposito del fatto che viene rimesso in discussione tutto, leggo oggi una dichiarazione del senatore Quagliariello adesso in questi istanti che recita in questo modo: valutare conseguenze dei redditi online. Cioè qualcuno all'interno della maggioranza ci sta ripensando su una cosa che è uscita fuori proprio in questi giorni come emendamento. Dunque ancora non c'è nulla di chiaro, nulla di chiaro, le cose cambiano in continuazione. Bene, grazie. Andrea dalla provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo fare un intervento ancora sulla telefonata fra Berlusconi e La Vitola. Posto che sono anch'io d'accordo con chi dice che non bisognerebbe rendere pubblico almeno il contenuto di questa telefonata per quanto riguarda il parere personale che può avere Berlusconi sull'Italia, però non avete forse ancora precisato una cosa, che pare che questa conversazione sia stata svolta su cellulari aventi SIM card di un qualche paese del Centro America. Cioè, la cosa quantomeno fa sorridere, no? Sorridere no, insomma. Cioè, un presidente del Consiglio che si fa consegnare una SIM card di un qualche paese centroamericano dalla Vitola per parlare con lui e poi dire ma tanto so che sono intercettato, allora se lo sai perché parli con una SIM card. No, la Vitola dice Dio non voglia abbiano preso, cioè le telefonate che stava facendo, e poi Berlusconi dice questo è un paese dove si intercettano tutti, dove si spiano tutti, eccetera eccetera. Guardi, adesso carte venezuelane o meno, questo fa parte dell'inchiesta. Comunque uno ha diritto di usare tutte le SIM che vuole anche di paesi sconosciuti. Poi certo la cosa può destare sospetto tra negli inquirenti, come sono state le famose carte svizzere, telefoniche svizzere di Moggi. Oggi non è un politico di rilevanza, cioè non è un presidente del Consiglio. Io mi domando, Berlusconi non era intercettato. Era intercettato la Vitola, dunque hanno intercettato la Vitola. Non poteva neanche essere intercettato. Appunto, non poteva essere intercettato. Era intercettato la Vitola, immagino su SIM o che non so, italiane, venezuelane, non lo so. Non mi pare fondamentale. È fondamentale ai fini dell'inchiesta, perché uno può immaginare che anche se poi la Vitola in realtà ha degli interessi economici in Sud America, cioè per cui. No, ma io non contesto il fatto che la Vitola usi una SIM card venezuelana, ma quanto che ne abbia fornita una, così pare, al suo interlocutore. Per parlare entrambi con SIM. Ma adesso io questo qua non lo so, non mi pare di averlo letto, ma ripeto, l'intercettato è la Vitola, non Berlusconi. No, certo, non Berlusconi. Non ho fatto niente di male né l'uno né l'altro. Ma io non so se Berlusconi quando parlava con la Vitola, parlavano entrambi su due SIM venezuelane. Io ho capito questo, però cercavo anche da voi una conferma, ecco. Adesso vediamo, grazie. Proviamo a chiamarlo, no? Il cellulare. Signor La Vitola, abbiamo cellulare italiano, non credo di La Vitola, ma avrà 100 milioni di schede. Pietro da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io volevo esprimere due perplessità. La prima perplessità riguarda l'entità stessa della manovra. Quanto sia... I saldi sono invariati, l'abbiamo sentito ieri dalla voce un po' inviperita del senatore Azzolini, 46-47 miliardi, quello che è. Lo capisco bene, ma io non riesco a quantificare, non immagino una diretta quantificazione tra il carcere per chi evade 3 milioni di euro e il fatto che questo qui poi porti una differenza nei saldi della manovra, tale da compensare altre misure che vengono accantonate. Lo so Pietro, lei ha ragione ed è di questo che si sta ragionando, perché evidentemente mettendo dei vincoli molto forti e stringendo un po' la cinghia sugli evasori fiscali, facendo quello che viene chiamato con un termine orrendo il giro di vite sull'evasione fiscale, con alcuni accorgimenti si hanno certamente delle entrate maggiori, su questo non c'è nessun dubbio. Detto questo, sono delle cose che dovrebbero essere fatte comunque in ogni momento, che non è che devono essere fatte in maniera particolare adesso, indipendentemente dalla manovra economica, almeno secondo me. E poi, come oggi sostiene l'Unione Europea, non portano entrate certe, ed è di questo è chiarissimo che le entrate non Può essere. Lo diciamo anche ieri, cosa vuole che le dica? Non si può fare una manovra togliendo delle cifre e mettendo al posto di quelle cifre la frase lotta all'evasione fiscale, perché è evidente che perché non è fumo, nient'altro che fumo, assolutamente fumo. C'è l'altro un'ultima che dici Parenzo? No, che c'è l'altro problema, il 15 settembre scadono i bot e quindi se non ci saranno certezze, che lo Stato non riesca più a pagare i soldi. Che discorsi seri, il torpedone ma come va sul torpedone? No, aspetta, parlo a voce bassa perché sennò la gente si è già innervosita. Però c'è già qualcuno che si sta un po' agitando. Buonasera, che si sta un po' agitando. Sì? Ecco, cerchiamo di essere gentili. Vuole dell'acqua? No, cerco di essere gentile. No secco, gentile. No secco. Parlo piano, non mi ha guardato male. No. Dopo l'esperienza di prima con l'altro signore che mi è passato, che mi parlava di cose assurde, non voglio riprovare. Signor Pietro, dobbiamo andare alla borsa. Allora, 15 secondi, che vuole dire? Niente, volevo dire un'altra mia sensazione. Se fosse invece forse più inerente l'idea di un risparmio, di un miglioramento dei conti pubblici, diciamo, migliorare il rendimento degli investimenti previdenziali attraverso un'emissione di titoli ad hoc, di titoli dello Stato ad hoc, con un rendimento maggiore per gli enti previdenziali e inferiore a quello che Pietro, ma perché ci annoia, perché ci annoia questi argomenti? Mandiamo la borsa. Eccoci qui, 20 e 33 800 24 00 24. Tra l'altro oggi è stato annunciato che ci sarà sulle auto blu risparmio di 900 milioni solamente nel triennio 2012-2014 da parte del ministro Brunetta. Dunque, qualcosa sulle auto blu si farà sicuramente, si fa troppo tardi, però comunque insomma magari qualcosa si riesce a fare. Michele da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dunque, tornando sempre a Alexata Questio, il paese di merda. Ora, negli ultimi 19-18 anni Berlusconi è stato, per buona parte di questi anni, è stato Presidente del Consiglio. Ora c'è una legge in matematica, una proprietà che si chiama transitiva, per cui se il paese di merda, lui che è stato Presidente del Consiglio di questo paese di merda, è un Presidente del Consiglio di merda. Sì, ma Berlusconi non si riferiva evidentemente all'amministrazione della cosa pubblica, bensì... Questo non cambia molto la questione. Comunque, è una preghiera a voi, sbrigatevi, lavorate molto sulla vostra trasmissione, perché è veramente gradevole e piacevole. E dunque dobbiamo lavorare ancora, dici? Rischia di finire, perché finisce una fase, mancherà la materia prima, cioè i politici nominati abbastanza incompetenti, abbastanza cialtroni, eccetera, che sono l'anima, l'essenza della vostra trasmissione. Lei dice, possiamo perdere tutto da un momento all'altro? No, da un momento all'altro no, perché stanno attaccati con le unghie e con i denti alle loro poltrone. Lei ci crede, per esempio, nel dimezzamento? A parte che la prossima legislatura ce la facciamo tutta, perché ancora il dimezzamento dei parlamentari non ci sarà e forse non ci sarà mai. Tra 900 persone, tra 900 persone che sono tra Camera e Senato, ma 300 sono lì a fare numero, non contano assolutamente nulla. Dunque, se fosse una cosa di 600 persone in tutto, senza il Senato, non farebbe un soldo di danno. Sarà un disastro per la trasmissione, se e quando torneranno persone elette, fermo restando che poi ci saranno comunque sempre, ci sarà una certa quota di cialtroni e di incompetenti, però qui abbiamo raggiunto l'acme proprio in questa fase. Bene, grazie, grazie signor Michele. Andiamo in provincia di Pisa, da Claudio, buonasera. Buonasera. Prego. Saluto a tutta la zanzara. Dunque, allora, qui parlate di manovra... però a me mi sembra che è già in atto, perché ho ricevuto la bolletta della Telecom, che il traffico con un'altra società solamente per l'uso della linea, e fino a qualche mese fa arrivava a 55 euro ogni due mesi, ora è arrivata a 62 euro. Le frecce direzionali della provincia, per un'indicazione di un'attività commerciale, fino all'altro anno costavano 63 euro, ora quest'anno costano 70. No, scusi, che cos'è che costa di più? Scusi, le frecce direzionali, non ho capito. Le frecce, quelle che si mettono ai bivi per indicare un agriturismo, un hotel, roba del genere, si paga una tassa alla provincia. Cioè, fino all'altro anno si pagava 63 euro. Lei ci sta dicendo che aumentano le tasse locali? Così, ma come il passo carrabile, come tutte le altre cose. E praticamente queste, come le chiama? Non si chiamano tasse, sono i tributi, però sono sempre soldi che escano, o no? Sì, certo. E un'altra considerazione che volevo dirvi, questa è solo testimonianza, poi può Berlusconi con i suoi soldi può fare quello che gli pare, a me non me ne frega nulla, mentre Venati l'ha fatti con i soldi del contribuente. Però qui a Pisa posso dire che non era una velina, perché faceva l'autista di Etir, una ragazza, Berlusconi l'ha aiutata moltissimo, perché era veramente affetto da una malattia terminale, che poi tra l'altro è morta. Oltretutto non solo l'aiutava, ma gli telefonava anche spesso, di questo posso esserne certo. No, ma vuol dire, ma nessuno... questa ragazza era una tifosa di Berlusconi. Sì, ma nessuno mette... Scusi un attimo, Claudio. Questo problema. Sì. E e non era un tifoso di Berlusconi, anzi l'opposto, l'ha aiutato ugualmente. Sì, vabbè, ho capito, Claudio, per carità, ma nessuno mette in discussione la generosità di Berlusconi, il fatto che aiuti un sacco di gente, eccetera. Ecco, la famiglia Tarantini e tutta la vicenda non mi sembra tipica di una persona, di una famiglia bisognosa. Ecco. Ci siano gli scandali sulla sanità, io credo che non sia da ora, ma da 30 anni. Ma che c'entrano gli scandali della sanità? Ma sono altre cose quelle. Sto dicendo semplicemente che Berlusconi ha detto che aiuta una famiglia bisognosa, ha aiutato una famiglia bisognosa, e va benissimo, per carità, va benissimo. Sì, ecco, così, proprio come impressione, la famiglia Tarantini, che per carità può essere caduta in disgrazia, in una situazione di agiatezza, non mi sembra il prototipo di una famiglia che ha bisogno di denaro. Magari ha bisogno di denaro per restare a un livello di vita molto agiata, o comunque agiata. Sì, però, su questo condivido. Ma io dico solo questo, per carità, poi va bene tutto, uno può regalare i soldi a chi vuole, lasciamo perdere l'indagine giudiziaria. Come, scusa, comunque, Parenzo? Scusi un attimo, Claudio, Parenzo, dimmi. Cioè, il signor Tarantini, stando all'accusa, ma non solo, alla testimonianza delle ragazze, pagava delle persone per andare ad Arcore. Sì. Allora, anche all'epoca si disse, è strano che uno paghi delle ragazze per portarle lì e faceva i regali e i soldi e dovete vestirvi in un certo modo e le pagava la macchina e andava. Cioè, la vicenda, indubbiamente, è non curiosa, ma molto di più. No, quindi se il signor Tarantini aveva delle spese fisse perché pagava tutte queste signorine da mandare lì, da qualche parte questi soldi arrivavano. Sì, no? Ho capito, però stiamo... E lo faceva perché? Perché pagava queste signorine? Stiamo parlando di un... I rufiani ci sono sempre stati, insomma, detto, parliamoci per caso. No, ma ho capito. Poi insomma ci si scandalizza perché poi non si guarda sui giornali tutti gli annunci. No, ma lasciamo perdere gli annunci. Non c'entra niente questo. Ma questo non c'entra nulla. Claudio, questo Claudio, scusi un attimo, questo qua non c'entra assolutamente nulla. Il punto è un altro. Parenzo ci sta semplicemente dicendo che c'è un'indagine giudiziaria per estorsione nei confronti di Berlusconi, in cui l'accusa è, nei confronti del signor Lavito e del signor Tarantini, di aver ricattato Berlusconi perché Berlusconi... In questo è vittima, è evidente che Berlusconi, che, questa vicenda è, sì, vittima. Sì, ho capito. Sarebbe vittima delle estorsioni di questo qui che gli mandava le ragazze a casa, le pagava. E dopo lo ha ricattato. Ma tra l'altro è molto verosimile. È verosimile che Berlusconi, da questo ci dovrebbe far ricordare, quando Berlusconi diceva che non ha mai pagato nessuno, è verosimile che anche davvero immaginasse che questi qui andavano davvero per incontrarlo. Invece poi scopriamo che Tarantini le pagava per andare lì e ora scopriamo che Berlusconi sarebbe stato ricattato da Tarantini. Evidentemente cosa può essere, si può ipotizzare che un giorno questo signor Tarantini ha detto, senti, io te le ho mandate, le ho pagate per venire da te, ora mi devi dare dei soldi, questa è l'ipotesi dell'accusa. Sì, sì, ma adesso al di là del pagamento, come è venuto, come non è venuto, quello che è successo, perché sennò uno dice poverino, oppure sì, ma è sempre l'ipotesi accusatoria. Ma non c'è dubbio che è solo quella, e noi dobbiamo essere garantisti fino all'ultimo grado di giudizio, non c'è dubbio. Marco da Milano, buonasera. Marco da Milano, sto cucinando adesso, cioè, come, scusi? Sto cucinando adesso, allora mezz'ora. Chiediamo perdono. Sì. Volevo dire, l'Italia è un paese di merda perché non premia il merito, perché non c'è etica, perché nessuno sta più alle regole, perché oggi la logica conseguenza di non avere il merito è che tutti pensano di essere tutti dei geni e tutti vogliono avere tutto e nessuno sta più alle regole. Questa è la considerazione. Di chi sta parlando però, Marco? Mi sia un po' più esplicito, meno generico, perché altrimenti... Io sto parlando sulla percezione, la percezione. Milanese. La percezione milanese. Anche oggi il portinaio pensa di potersi permettere il Porsche Cayenne e lui lo vuole. Se noi vediamo le pubblicità che stanno mandando oggi in onda, quando ti dicono che il lusso è un diritto, ma quale diritto? Il lusso te lo devi permettere. Vabbè, Marco, sono portinaio, scusi. Sì, Marco, scusi, questo qua che cosa? Un portinaio che pensa di poter scopare il Porsche Cayenne. Non ho capito. Non so se è una metafora o se è la realtà, non ho capito. Vabbè, comunque, portinaio. Salta fuori pure il portinaio adesso. Vabbè. Perché? Marco, non mi pare un'analisi particolarmente, ecco, come dire, particolarmente puntuale, insomma. La sensazione da Milano. E poi questi soldi, perché continuiamo con questo recupero dell'evasione fiscale? Ma tutti gli enti creati dei trombati della politica, tutta la gestione autostrade, tutti i miliardi delle società a partecipazione statale, ma dove li mettiamo? Perché pensiamo subito all'evasione per lasciare stare queste cose sempre? Cioè questo? Perché si parla solo di evasione fiscale? Scusi, a che cosa dovremmo pensare invece? Non ho capito bene cosa ha detto. Ai trombati? A tutti quegli enti, sì, di tutti i trombati della politica creati apposta per mantenere queste persone, gli amici degli amici, dei portaborse. Lei sta parlando semplicemente degli enti inutili, della questione degli enti inutili. Lasciamo perdere i trombati, quelli che vengono. Tutto quel carrozzone che nessuno parla mai, che nessun giornale. Sì, ma mi sia più preciso, a parte che non è vero che tutti parlano di tutto, non è vero che non si parla di enti inutili, eccetera. Ma non mi faccio un esempio dall'alto della sua scienza su un ente inutile. Cruciani, non posso farti un esempio perché io non vivo a Roma, no, ma chi vive a Roma sa tutto, testa tutti i giorni lo spreco di denaro pubblico. Va bene, Marco, grazie. Germanzi, Vittorio da Chieti, buonasera. Buonasera. Niente, io volevo dire che nessuno dice che in pratica, cioè, le tasse in Italia sono tra le più alte che esistono, ecco perché si evade. Cioè, io faccio l'imprenditore. Devo evadere, come faccio a non evadere? Cioè, è impossibile pagare tutto quello che dicono che dovremmo pagare. È matematicamente impossibile, le aziende non si potrebbero reggere tra cavilli, cavilletti, le cose assurde proprio sentiamo. E poi si parla di tutto meno che di questo. Perché non risolviamo il problema alla fonte con uno Stato più equo e più giusto? Questo è il problema. Se si evade, perché si evade? Nessuno se lo chiede però. No, ma lei ha ragione quando dice che... cioè, è impossibile. Poi un'altra cosa, volevo dire che lei qualche giorno fa ha detto che in pratica ai giornalisti gli si dà troppa importanza a quello che dite. Ed è verissimo. Perché c'è, telefonano persone che indignate da quello che succede, perché un giornalista ha detto una cosa o un'altra. Ma cioè, il giornalista fa il suo lavoro. Cioè, non bisogna arrabbiarsi così per nulla. Telefonano persone, cioè, non lo so che gli dice la testa, capito? Assurdo, non si può sentire proprio. E poi lo Stato che è ingiusto, ecco perché si evade. Cioè, uno che ha 10 dipendenti, se si fa il conto di tutto quello che deve pagare, oggi come oggi, sì, che c'è una crisi allucinante sul dettaglio, cioè, lei mi spieghi come deve fare uno per pagare tutto quello che c'è da pagare? No, Vittorio, lei su questo ha ragione, posto che non si può dire che è giusto evadere, eccetera, bisogna ogni tanto ribaltare la questione finché... Sì, ma non si può passare per delinquenti, cioè, noi siamo degli eroi, io mi sento un eroe, perché io sono un eroe. Lei evade il fisco? Ma io se vuoi pagare tutto ci si prova, ci provano tutti, io ho una marea di amici che ci prova a pagare tutto, ma è impossibile, le aziende falliscono. Ah no, Vittorio, ma questo Noi siamo eroi, gente che sta in mezzo alla strada e ci dobbiamo sentire evasori, controllati sui conti correnti, ma si sentono delle cose assurde, cioè delle cose assurde, ma non le dice nessuno. Vittorio, scusi un attimo, lei che mestiere fa? Io ho dei negozi al dettaglio. Negozi al dettaglio. Non mi faccia dire, sto parlando così. No, no, non certo. Mi faccia dire nello specifico quello che faccio. No, però... non le faccio dire nello specifico. Voglio capire in che modo riesce a deludere. Ma non mi faccio queste domande, cioè non sono cretino. Io ti sto dicendo che non è che non voglio che evado, le sto dicendo che non si riesce a pagare tutto. Ho capito. Lei sicuramente fa un lavoro da lavoro dipendente. No, ho anche un altro. Allora lo sa. Si faccia un po' i conti quanto deve pagare, no, se vuole pagare tutto. Lo so benissimo, no, ma io pago tutto naturalmente, però so benissimo, lo sa anche Parenzo cosa significa, insomma. Sì, 50%, una roba allucinante. Ma io non riesco a ricaricare il 50% su un prodotto. A pagare il 50% se non riesco a ricaricare il 50%? No, Vittorio, ma io mi rendo conto. In pratica poi le aziende chiudono, le banche non ti aiutano, poi cavilli in banca assurdi, hanno messo delle leggi sconvolgenti. Andate sullo specifico quando parlate, queste sono le cose importanti, secondo me. Vabbè, dopo lei faccia come vuole, però le cose importanti sono queste, di quelle di cui parlare. Vittorio, ci sono anche... Berlusconi che tromba, quell'altro che tromba, quello fa il trombaccio, ma mi ha dato lui che tromba, che ce ne frega? Che ce ne frega? Cioè, programmi televisivi, radiofonici su Berlusconi che tromba, ma meno male che tromba, ma ci pensi se fosse stato un frocio, cioè incredibile. No, Vittorio. Ma sì, ma è così, ci rivuole il testone e basta. Come scusi? Ci rivuole il testone, quello di Dappio, quello ci rivuole per certe cose, e basta. Lei era partito bene, era partito no, bene. No, ma vabbè, ma giusto per dire, non sono di quella giusto per dire, lei era partito bene, poi sono ha detto basta che Berlusconiano, alla grande. Però sì, no, ma che lei sia berlusconiano se l'è intuito, però lei era partito benissimo su, perché oggettivamente c'è un problema che riguarda il peso del fisco, eccetera, eccetera. È assurdo. E poi è andato a parare su Berlusconi, è meglio che tromba, e meno male. Anche lei spesso para su delle cose strane. Ho detto una cazzata, ma però non ah, ecco, appunto. Per dire. Ecco. Però facciamo un programma, parliamo, cioè, di queste cose qua. Cioè, è sconvolgente quello che c'è da pagare, è impossibile. Vittorio, sa a un certo punto cosa queste intercettazioni, per carità, adesso siamo già alle 20:47, lo possiamo dire. La, a un certo punto la Vitola, dopo che Berlusconi si sfoga, paese di merda, vado via da questo paese di cui sono nauseato, punto e basta, eccetera, a un certo punto la Vitola risponde e dice: io sinceramente non credo che ci sia una donna al mondo che, se lei le telefona, dice vieni qua a farmi una pompa, quella non viene correndo. Dottore, lei mi perdoni se mi permetto. Questa è la frase che dice la Vitola a Berlusconi, e mandiamo, dopo questa frase, mandiamo il traffico. Siamo qui nel rush finale di questo venerdì 2 di settembre qui alla Zanzara, sempre 800 24 00 24, caro Parenzo. Stiamo per concludere questa settimana di Zanzara, tu sei sul Torpedone, va bene, procede bene il viaggio, sì, ci sono problemi. Con assoluta regolarità, la velocità di bordo è attorno agli 80-90 km orari, l'arrivo previsto è per le 23.30. 23.30? È presso poco, 3.45. Una cosa drammatica, un viaggio drammatico, un viaggio drammatico. C'è di peggio, diciamo, però legge, si studia, si ragiona di politica con me stesso. Beh, poi magari ci si può anche rilassare, no? Ci si può anche rilassare. Studia, non è il momento per rilassarsi, c'è la crisi, non si può rilassare. Signor Vittorio, l'abbiamo salutato, sì, signor Vittorio da Chieti, andiamo a Cosenza dal signor Emilio, buonasera. Buonasera a lei, grazie per avermi richiamato. Dica. Senta, niente, io prendo per buona la prima parte della telefonata del Vittorio di prima, sì. Perché secondo me il discorso era, a parte poi la seconda parte che si è andato un po' sulla, la prima parte invece lo vedo è quello che volevo dire anche io. Il fatto, aggiungerei a quello che ha detto Vittorio prima, un altro fatto molto importante, che noi delle aziende, piccole e medie aziende, io ho una piccola e media impresa qui in Calabria, le difficoltà si moltiplicano perché si pretende, e forse anche giustamente, che le regole da seguire sono quelle europee, quindi le certificazioni, la qualità, l'ambientale, la CE, tutta eccetera eccetera. Un'azienda di piccole dimensioni, piccole e medie dimensioni, comincia ad avere dei costi enormi, che quindi fatica moltissimo. Allora il problema secondo me non sta solo sul fatto di combattere l'evasione, che è giustissimo combattere, allora? Il problema sta, a mio parere, viene spostato volutamente nel non capire che il problema sta nel tagliare i costi, perché se continuiamo a pensare di continuare a spendere quello che spendiamo, una famiglia che continua a spendere quello che spende, è chiaro che ha bisogno sempre di incassare di più per poter spendere sempre di più. Purtroppo il problema è questo. A questo aggiungerei soltanto un'altra cosa, che velocemente, che tutte quelle persone, che sono tantissime in Italia, che per fortuna lavorano e producono, cosa, dopo aver sentito tutte queste storie, ma cosa veramente possiamo fare? Quali storie, scusi? Quali storie? No, no, si sente le storie che sentiamo, fanno dei programmi, fanno delle correzioni, poi le spostano, poi se le rimangiano. Ah, poi lei dice il caos di questi giorni. Il caos di questi giorni. Cioè, bene, Emilio, grazie. Collegamento finale con la Reggia di Monza. Collegamento finale, se ancora il ministro, sono le 20:51, non so se il ministro Bossi è ancora lì, ma proprio un collegamento flash, direi, un collegamento flash. Ministro? Pronto? Sì, è ancora lì. Allora, la Reggia di Monza a lavorare, palaparia libera, bianca e cristiana, mai musulmana. Grazie agli amici di Radio Padaria, l'ascolto. No, ma è Radio 24 questa qua. per stare, adesso ti rubiamo le frequenze, capito, cretino? Te le portiamo, te le smontiamo il traliccio, via. Via, stanotte arrivano gli uomini della Padania, Calderoli, Borghezio, tutti i deputati vengono lì, salgono sul traliccio e te lo smontano via, a meno che sì. C'è una possibilità per salvare Radio 24. Noi qual, siamo è? Anche... qual è? Allora c'è un ragazzo che ha 21 anni, stai zitto, zitti, puoi salvare anche tu, cretino, puoi rimanere qui in allora... Padania, se fai il bravo, se ti commissariamo la Zanzara, poi se balli ancora, faccio fatica anche a parlare, a dirlo così, un ragazzo di 21 anni arriva lì, si mette in redazione, lo facciamo per ora caporedattore, poi dire subito, ho già parlato anche col Tamburini, d'accordo, che Tamburini direttore, d'accordo, come d'accordo? Facciamo, dai zitto, che Tamburini è del nord, tu sei, devi tornare a Roma, che tra qualche giorno arriva Nerone, bravo, è romano lì di Nerone, ha capito tutto per tempo, Nerone ha capito che andava messo tutto a ferro e fuoco, tu bravo, è un romano bravo, Nerone, romano della Padania, un celto, abbiamo riscritto anche un po' la storia, abbiamo fatto diventare Nerone un celtico, abbiamo un attimo riscritto le libri di storia. E dunque che dobbiamo fare qua? Assumere questo ragazzo? No, assumere, è brutto detto così, viene preso per merito lì alla Padania, per merito viene, stai zitto che ti legniamo, guarda, devi rompere i coglioni sempre meno, basta, mettiamo lì un giovane boss a fare il lavoro, ha sempre fatto il direttore dei giornali, è bravissimo, fa il direttore con Tamburini, abbiamo già parlato col direttore della radio, fai collegamenti con la borsa, solo con le borse del nord, borse del sud non ci interessa. Ma su Parenzo non ha niente da dire, sempre contro di me. Un anno maledetto Padano, un cretino nano di Padova, Padani, ormai non ha più niente di Padano, da quando sta a Roma col cretino lì, lavora quella radio, è un nano. Peggio di Brune, è lì, sempre piccolo, con gli occhiali, magro, ma l'ho visto, lì è maciato, via, che Parenzo, via. Andiamo via. Bene, grazie, ultimo collegamento. Cosa chiude il collegamento? Cretino, sono io che ci sono ministro della Repubblica. Ho capito. Parlare della semplificazione. No, per carità, carità. Abbiamo fatto un decreto per semplificazione. Il Senato Padano, facciamo. Ma ancora, c'è tre giorni che ci c'è il decreto del Senato Padano, ho capito. E facciamo il Senato per semplificare, però lo facciamo. Lo so, vabbè. Grazie. Lì avremo la Camera, il Senato lo abbiamo semplificato tutto. Bene, guarda, grazie. Germano D'Ancona, buonasera. Buonasera a tutti voi, è sempre un piacere ascoltarvi perché siete quelli che date più spazio anche alle cazzate poi, perché fondamentalmente ci sono anche queste. Comunque io sono un evasore. Come lei è un evasore? Scusi. Io evado per vivere, evado per comunque per dare l'economia. Cioè, come evade per vivere? Evado per vivere, perché come diceva Vittorio, qui non ci fanno campa più, cioè io ho dei dipendenti, devi pagare questo, devi pagare quello. Cioè, alla fine quanti dipendenti ha lei, scusi Germano? Io 4 ce n'ho i dipendenti, una piccola media azienda, non te paga uno, devi fare i salti mortali, non sei tutelato da nessuna come parte. Evade lei? Come evade? In tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè? Dalle schede carburanti ai pasti, all'IVA, alle fatture, tutto, qualsiasi cosa, beccato, perché tanto non l'hanno mai beccato. Più soldi gli diamo a questa gente qui e più se ne mangiano. Ma, Berlusconi. Ma fa anche fatture false lei, non ho capito. Io faccio tutto. Tutto che io vuol dire? Tutto per dire così, qualsiasi cosa, come fanno tantissimi. Cioè mi faccio un esempio, fatture false. Sì, anche, uno gli serve una fattura, noi facciamo le fatture, ti paga l'IVA a posto. Poi? E poi cazzi i soldi dell'IVA te li vai a spendere, te li vai a mangiare, vai a figa, vai dove ti pare, vai, vivi. Ma cioè, lo dici come così? Ma lo dici così? Ascolti, io dico una cosa sola, no? Ma non c'è più, non c'è più. Quando una persona che per arrivare a fine del mese, io premierei tutti quelli che vivono con 700-800.000 euro al mese perché vanno premiati in Italia, e viene un politico e ti dice io capisco quelli che vivono con 1.000, che come fa quello a capire come si vive con 1.000 euro al mese, a pagare le bollette, a mandare i figli a scuola, a pagare la luce, l'acqua, a mangiare, cioè sta gente non si rende conto che c'ha agi e privilegi. Scusi, non l'hanno mai controllata lei? Fino adesso l'ha spagnata? Come no, certo, ma tanto se fa le società, c'è l'SRL, ragazzi, e quindi... ma non è che io non devo insegnare niente a nessuno. No, ma lei l'ha sempre spagnata però. Io sempre, nulla tenente, sempre vincente, signori. Cioè lei nulla tenente? Lei nulla tenente, sempre vincente. Lei nulla tenente e in realtà come campa, diciamo, qual è il suo tenore di vita? Io campo. Cioè campa e si diverte pure? campo, mi diverto, faccio come Berlusconi, vado a figa, vado a escort, cioè, di questo l'ho capito, ma quanti soldi io sono uno normale, quanti soldi spende lei al mese? 15-16 mila euro al mese, 18-20, dipende. E quanto paga che il fisco? Quanto paga il fisco? Ma io non gli do una lira al fisco, non gli darò più i soldi al fisco. Se, non è però, cioè, è ladro, Germano, però, lei stai esaltando il fatto che la sua attività banditesca, però. Io esalto la mia banditesca perché, ascolti, loro lei sono banditi a monte, secondo me. Quando un ministro paga in nero i suoi portaborse, lei mi segue. Sì, ma lasci perdere, però, questo non c'entra nulla. Ma lei è il primo che dà l'esempio, come può pretendere... Dobbiamo chiudere per stasera, dobbiamo chiudere, lui. Germano, però la richiamo la settimana prossima, grazie. Lunedì 18:30, ciao. Vado, questa volta deciso che vado. Cruciale vaffanculo, non sei Cruciale. Giuro che... Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.